Diamo il benvenuto qui al, siccome sto registrando devo anche dare qualche informazione di contesto, qui al corso del Luce Lab Cinecittà di Digital Humanities per la comunicazione in rete, terza edizione, a Giorgio De Finis, che già ci fece visita lo scorso anno per una chiacchierata. Questa non sarà proprio una lecture, cioè non c'è lui con le slide eccetera. Poi tra l'altro sulla efficacia delle slide bisognerebbe aprire un capitolo. Giorgio De Finis, di cui abbiamo già parlato in realtà, abbiamo fatto una lezione teorica un paio di sabati fa, in cui abbiamo parlato dell'idea, diciamo, di come sta cambiando il museo, di quello che è il ruolo del museo, che è un tema fondamentale. Perché? Perché il museo sta diventando uno di quei posti che si stanno sostituendo alla catena editoriale tradizionale, industriale, nella capacità di definire che cosa è rilevante per le persone, no? Che è un tema anche di unframing, no? E cioè i media hanno abbandonato questa missione di darci la capacità di interpretare il mondo. I media si sono occupati tutto il tempo a costruire quello piano della rappresentazione, quella società dello spettacolo, no, di cui parlava Debord, ma non per ragioni ideologiche, ma banalmente perché è l'unico modello economico che hanno trovato. E c'è quindi una finestra, non so quanto durerà, in cui alcuni artisti, alcuni musei, alcuni curatori, alcuni direttori artistici di musei riescono a trasformare queste istituzioni, che non coincidono con i palazzi, anche se a volte lo sono, in luoghi dove tu entri e quando esci c'hai più notizie rispetto a quando sfogli un quotidiano, guardi un telegiornale o ascolti un giornale radio. Notizie non di attualità, naturalmente, perché il problema è anche lo schiacciamento sull'attualità che infesta il discorso pubblico, ma proprio perché sono, lo dicevamo, delle eterotopie, sono degli altrove, no? Entri nel museo e quello spazio obbedisce a regole diverse rispetto all'aggressione, no, di contenuti che subisci normalmente dalle catene editoriali. E poi sono anche delle eterocronie, cioè sono dei posti dove assume rilevanza qualcosa che è fuori dallo schiacciamento dell'attualità. E poi spesso, soprattutto, sono musei che dialogano, sono musei partecipanti, dove chi entra non è un consumatore, uno che stacca un biglietto, compra un prodotto, un servizio, ma sono... Mi citi questi musei, quali sono? Per sono i tuoi? No, perché stiamo parlando di musei come se fossero così. Perché tutti dichiarano... Mi stavo sforzando da alcuni minuti di ma di che sta parlando? Di quali musei sta parlando? Poi alla fine... quando abbiamo fatto la lezione teorica, la carrellata era le definizioni dell'ICOM degli ultimi anni, no? Dove forse il momento più alto è stato, certo, quello della rissa, cioè Kyoto, no? La definizione di Kyoto del 18 era bella, peccato che l'Italia l'abbia bocciata. Ma non solo l'Italia, alcuni paesi a Kyoto hanno lasciato questa definizione che è la migliore, la più avanzata, anzi ora la proiettiamo pure se la ritrovo, era la, mentre magari poi rispondi, e era la più avanzata, e proprio per questo, diciamo, un pezzo dell'estate casualmente con quello in parte raccontava quello che era il macro che stavate facendo, sì. Ma torniamo indietro, perché io voglio inquadrare Giorgio, lo chiamiamo per nome perché siamo tutti, diciamo, sullo stesso piano in questa discussione. Come arrivi a diventare inventore di musei? Perché tu nasci antropologo, com'è successo questo passaggio? Sì, poi però voglio tornare anche alla questione delle informazioni che dicevi. Ma per forza, ci abbiamo due ore, quindi sì, anzi un'ora e mezza, diciamo. Non ce lo perdiamo quel passaggio, no. Perché anche su questo non sono totalmente d'accordo. Ma è normale, nel senso, altrimenti non ci incontreremo. No, ma nel senso che cioè, tutti i musei danno delle informazioni, e chi va in qualunque museo, anche il più tradizionale, esce con delle informazioni. Il problema è capire che tipo di informazioni ti danno, con che verticalità l'informazione passa. Ma io per notizia definisco qualcosa che è rilevante per le persone. È chiaro che se tu per vai... me è più interessante che escano con delle domande e sì, sì, certo, che con delle, certo, risposte. Certo. Quindi diciamo... Comunque rientriamo poi anche su questo, dai. Sì, questa è una questione importante, perché se no uno dice vabbè, cioè pure il Maxi fa il suo lavoro su questo, non è che non dà informazioni, è pieno di informazioni. Sì, il problema è che A, non sono rilevanti. No, no, ma lo sono anche. E però... B, perché il problema non è vero falso, no, infatti, infatti. Il tema è che cosa cambia la vita delle persone. Che per esempio, se ci fosse un curatore che non risponde all'esigenza di marketing e non ti deve sparare per forza, che so, Vivian Meyer e poi Robert Duvall subito dopo, per fare un esempio recente, sì, no? Sì, cioè, anche lì ci sono delle informazioni, però il problema è che la scelta è... Io percepivo nella tua cosa un apprezzamento sul fatto che ci serva qualcuno che ci dia delle griglie di riferimento per capire il mondo, mentre io sono totalmente contrario a queste ipotesi, nel senso che ognuno è spettatore emancipato, ognuno ha la sua cultura, la sua intelligenza, si fa un'idea, si documenta, non serve il cucchiaino. Però quando arrivi ci sono comunque... Certo, delle cose di cui discutere, certo. Molto spesso possono essere frutto di un ragionamento di rilevanza imposto dall'alto verso il basso, no? Se tu vai, che so, a un Maxi e trovi la mostra delle autostrade fatta dalla società Autostrade, dove guarda caso non si parla del Ponte Morandi, la mostra della Nutella organizzata da Ferrero, allora quello è un criterio di rilevanza collegato esclusivamente a una leva di potere. Secondo la definizione di Kyoto, chiaramente c'è un ruolo del museo, non dico del curatore, no? Ma del museo, anche tu stesso. Ah, certo, è questo quello che però la differenza è tra didattica e maieutica, diciamo. Sì, sì. Tu fai la macchina maieutica. Io vorrei fare una macchina maieutica dove mettiamo sul tavolo questioni, problemi, punti di vista, però... il mio diverso dal tuo, il suo diverso dal nostro. Dopodiché ognuno è libero di trovare le sue verità o i suoi, come dire, no, punti fermi, che sono anche necessari, però in maniera, come dire, autonoma, non imposta, non dentro, non questo è vero, questo è giusto, questo è il bello, ve lo dico io che sono l'esperto, e quindi no, se non siete d'accordo è perché siete ignoranti, diciamo, no, che questo è il modello, diciamo. Questo non vuol dire buttarla in caciara sul populismo, che tutto va bene, poi c'è ognuno, cioè, però vuol dire rispettare i punti di vista, no? Molteplici, plurali, che ci sono. Oggi si parla tanto, una delle mega questioni, ma soprattutto la pluralità dei temi. Sì, ma dei temi, ma anche, ti ricordi la stanza delle parole? Certo. Noi mettevamo 10 esperti, perché 10 in uno? Se l'esperto è uno, la parola te la davo a te, era risolto. No, perché 10 esperti vuol dire che questi paletti che servono a definire le parole che usiamo, tu li metterai, li disporrai in un modo, quello che viene dopo di te, che è esperto quanto te, con tutto il curriculum del caso, sposterà, allargherà, stringerà il campo in base a quella che è la sua idea, il suo posizionamento, la sua disciplina di riferimento, eccetera. Quindi, diciamo, quello che va sempre ricordato e che si perde sempre nella didattica tradizionale, dove c'è chi insegna e chi apprende, è che le cose sono costruzioni umane, e quindi sono sempre relative, sono sempre opinioni sul mondo, sono sempre cose che possono essere discusse, non sono le tavole della legge, no? Quindi un museo raramente si propone così. Il museo, ma neanche quello di Leibel, quello di Karlsruhe, scusa. Sì, sì, quello era il più vicino al Magrasilo, con la differenza che loro avevano 26 milioni di euro sì. L'anno, e noi 400.000, però diciamo era tra tutti i musei. Però credo che se andassimo a scavare dentro quel museo, anche in ragione del fatto che avevano quei denari, e quindi automaticamente puoi permetterti di invitare il top. Cioè non fare quello che ho fatto io, la chiamata di tutti per alimentare la macchina, diciamo, querce e funghetti, come dicevo scherzosamente, no? Penso che Weibel abbia invitato solo querce. Ora, che ci sia stata una apertura disciplinare, punti di vista, ci hanno dormito anche diciamo i movimenti con le tende dentro quel museo, quindi insomma questa è sicuramente un'anomalia rispetto ai musei, no? Tradizionali. Però penso che per esempio disporre di quelle cifre automaticamente ti porta a chiamare dando la fine, che vedo giusta, ai luminari, quindi c'hai, non c'hai e non avrai sicuramente un museo che mischia l'alto e il basso, avrai un museo molto aperto ai punti di vista, ma dove tutto è alto, secondo me. Quindi questo penso che, non l'ho indagato nei singoli programmi, ma temo che una cosa in cui inevitabilmente cadi se c'hai da gestire una macchina. Questo è il tema che proprio voglio approfondire. Arriviamoci magari anche attraverso quello tu che hai fatto la domanda, ritorno alla domanda. Torniamo alla domanda, dai. Allora, io nasco antropologo, tra l'altro antropologo molto, diciamo così, con una formazione strutturalista, quindi con una disciplina che ambiva a trovare leggi di carattere generale del mondo umano, insomma, no? Quindi un approccio molto, molto duro, diciamo. Poi piano piano mi sono, per necessità, dovuto confrontare con autori come Feyerabend, come Wittgenstein, come Horthy, cioè autori che erano i nemici, diciamo, naturali di questo approccio, però erano anche nemici autorevoli, cioè nel senso talmente autorevoli che bisognava farci i conti. Io ci ho fatto i conti, diciamo, trovando dentro questi autori un'ancora di salvezza che non me li facesse buttare via, certo, perché in realtà erano assolutamente fondamentali, diciamo, no? Però il rischio, diciamo, della tesi dell'incommensurabilità di Feyerabend, cioè dove ciascuno parla la sua lingua e l'altro manco ti capisce, cioè, come dire, un relativismo molto spinto può portare come conseguenza che allora non ci possiamo parlare tra diversità, non ci possiamo incontrare, non possiamo nemmeno studiare l'altro, che era un limite, no, anche alla disciplina, cioè che senso ha fare l'antropologo se poi vai a incontrare un'altra cultura e per definizione quella cultura ti è inaccessibile perché parla un'altra lingua che ti classifica il mondo in maniera, no, differente, quindi di fatto è come incontrare un marziano. Quindi io ho cercato, studiando molto attentamente questi testi importanti che consiglio a tutti di leggere, ho trovato sempre che in una qualche noticina a piedi pagina comunque questa idea di una natura umana, termine non si usa più però per capirci, cioè che ci fosse a un certo punto dentro l'eterogeneità, il mondo, no, mille colori, ci fosse quella punta di bianco, che dico bianco non per un'adesione razzista, ma perché nel prisma, certo, l'unione di tutti, l'unione di tutti i colori dà il bianco, diciamo, quindi un punto comune, no, che serve per permettere la traduzione, poi una traduzione sempre parziale, sempre piena di errori, sempre, però insomma, diciamo, questa per me era fondamentale e rimane fondamentale. Dopodiché piano piano, diciamo, anche facendo lavoro sul campo, insomma, cioè, entrando in contatto non con i sistemi di parentela cristallini che tu metti sul tavolo da solo e li organizzi e li classifichi, ma entrando in contatto con le persone, con i gruppi, eccetera, alla fine, diciamo, anche il mio approccio da voler trattare, da voler fare, diciamo, scrivere come obiettivo le forme elementari, le forme complesse della parentela, che è, diciamo, l'evoluzione del libro di Lévi-Strauss più importante, diciamo, in questo settore, sono passato faccio salti lunghi al diario di campo, cioè sono passato a una forma di restituzione che era molto prossima alla letteratura, quindi molto con io, la parola io che non figurava all'epoca ancora, però sottointesa in tutto quello che io andavo a raccontare e che era, come poi in una tradizione etnografica più recente è successo, era quasi sempre in realtà il racconto di come difficilmente si veniva a capo di tutta una serie di cose che uno guardava ed esperiva vivendo con questi gruppi umani. Cioè, quindi, diciamo, un avvicinamento a una narrazione più soggettiva, e quindi diciamo un avvicinamento teorico ad alcune posizioni dell'ermeneutica o di certa diciamo filosofia, insomma, della scienza, del linguaggio più diciamo un po' più relativista, un po' più, no? E quindi questa cosa mi avvicinava un pochino all'arte, ma era ancora un'arte, diciamo, la letteratura o la fotografia, che diventava comunque da documento, perché inizialmente anche la fotografia io la leggevo come un documento per fermare la realtà, cioè dice, siccome devo scoprire qualcosa, allora faccio le foto, faccio i video. Ovviamente imparando a fare le fotografie e utilizzando quello strumento ho capito che non fermi niente della realtà e semmai la inventi, cioè che una buona fotografia è... A volte anche la danneggi, cioè da documento a documento. No, ma non è mai un documento, anche se c'è questo, almeno nella mia idea, non so quella che mi sono fatto, però l'idea è che una buona fotografia inventa una relazione tra le cose che stanno nel quadro, che è una tua costruzione, perché tu cerchi quella relazione, perché è come scrivere una poesia rispetto, quindi scrivere poesie è molto importante, a volte dà conto del mondo molto meglio di un trattato, come sappiamo, se uno è un bravo poeta, sì, no? Poi oggi è la giornata mondiale, oggi sì. Quindi ci diamola volentieri, no? Magari scrivere poesie invece di trattati, però anche per la capacità sintetica che hanno, no? Quindi, però anche lì quel tipo di fotografia non era più documentazione, diventava un'interpretazione, addirittura un'invenzione del mondo, no? Sì, perché poi a un certo punto da antropologo a fotografo e documentarista. Quelli sono stati per me strumenti, però li ho praticati anche come mestiere, cioè io ho fatto regista per la Rai, per Sky, quindi diciamo che non è che l'ho usato anche per produrre cose che dovevano andare, diciamo, nei canali e quindi avere anche un linguaggio che non era più scientifico, certo, ma era anche in parte divulgazione, eccetera. A Metropolis c'è stato un cambio. Metropolis è l'occupazione abitativa, dove, occupandomi per tanti anni di città, perché dopo, diciamo, le esperienze fatte nella foresta di Palawan, prego. Dopo le esperienze fatte nella foresta di Palawan, nelle Filippine, con il popolo Batak, piano piano mi sono iniziato a occupare di grandi metropoli, diciamo. La metropoli, cioè il passaggio degli umani per il 50% più uno della popolazione mondiale in città, è un dato significativo antropologico, è la prima volta che succede nella storia umana. Mi interessava indagare il perché le persone si riuniscono in luoghi malsani come le grandi megalopoli asiatiche, africane, sudamericane, cioè qual era il senso. E quindi ho iniziato a studiare queste città con un approccio appunto più leggero, anche partendo dalla convinzione che non avrei mai capito, ma semplicemente fatta esperienza di queste cose. Quindi empirico, diciamo. Molto empirico, ma anche senza, ripeto, la presunzione di dire vado a Mumbai 3 mesi e scopro cos'è Mumbai. Vado, sistemo Mumbai. No, no, ma non sistemo, ma nemmeno capisco. Ma cioè, neanche, perché però magari ci, però, individui delle leve magari di potere, no? Di come è organizzata, sì, la città. E ripeto, senza riuscire, è anche a troppo questo, cioè uno prova a guardare, come dire, il mostro negli occhi, cioè sì, questa era l'idea, cioè vado a Mumbai, mi confronto con 16 milioni di persone che vivono lì, che alle 10 del mattino nella stazione, se non stai attento, ti travolgono e finisci sotto i binari. E nessuno se ne accorge. Dentro, insomma, mi sono preso 2 epatiti solo respirando, diciamo, alle feci essiccate, i virus dello slam di Dharavi, dove 800.000 persone compresse con 3 latrine fanno tutto all'aria aperta, e quindi le polveri però che respiri sono già protetti dagli anticorpi. Ma sono protetti, prendono l'epatite come una sorpresa, io stanno male, guariscono e tutto passa, diciamo. Però per dire, questo confronto più faccia a faccia tra una formica e, come dici, cioè, il mostro, no? Che però ripetuta nel tempo su più città, su più posti, poi qualcosa rimane della comprensione. In realtà quello che ho capito sulla città l'ho capito a Metropolis quando sono tornato, cioè l'ho capito nella mia città, si dice che l'antropologia è il viaggio più lungo per tornare a casa, cosa che in parte è vera, per cui uno va in India, trova che 11 milioni di persone vivono nelle baracche, poi torna a Roma e si accorge che pure a Roma ci sono le baracche, non sono 11 milioni, ma c'è l'emergenza abitativa, c'è chi non riesce a pagarsi un tetto, c'è chi lotta per il diritto, eccetera. E a Metropolis, diciamo, c'è stata un po' la svolta, cioè dopo anni che mi occupavo anche di cosa succedeva a Roma sotto il profilo di quella che si chiama impropriamente emergenza abitativa, perché poi emergenza non è, essendo cronica, diciamo. Alla fine lì ho fatto un passaggio, nel senso che quando ho bussato alla porta di questa fabbrica occupata proponendogli l'ennesimo film documentario, questo film documentario non era più il racconto dell'occupazione abitativa o della loro storia o di quello che era Roma in quella, diciamo, sacca di marginalità, ma era un viaggio sulla Luna. Cioè, noi abbiamo proposto, io e Fabrizio Boni, agli abitanti di costruire un razzo come opera collettiva, che era una sorta di lettera simbolica al sindaco: noi ce ne dobbiamo andare da questa città, da questo pianeta, perché è inospitale, e ricominciare su un altro pianeta. Però questo gioco era anche una situazione, cioè non era un documentario né una fiction, era un dispositivo, come io chiamato e chiamo le mie cose da quel giorno in poi. Cioè, dispositivo vuol dire appunto una macchina che metteva, disegnava un gioco, un tavoliere di gioco con delle regole del gioco: tu c'hai il dado, tu c'hai il razzetto, tu tiri due volte, se vai lì vai in prigione, cioè diciamo disegnavo questa situazione del gioco con anche però un po' la curiosità di vedere cosa succedeva, no? Cioè era un, come dire, era un cavallo di Troia per entrare lì, ma anche avviare dei processi trasformativi. Quindi noi all'epoca, nel 2011, chiamammo questo documentario Cantiere Cinematografico e d'Arte, cioè ci siamo riconosciuti, diciamo, da soli, come si deve sempre fare, cioè l'autolegittimazione è il primo passo per dire sono un artista, se no non è che te lo devono dire gli altri, te lo devi dire da solo, beccarti le pietre che arrivano e poi forse qualcuno nel tempo lo riconosce, ma non è detto, diciamo. Però noi lì ci siamo detti stiamo facendo un'operazione artistica, diciamo, no? Un po' ispirata, ma molto così, all'acqua di rosa, al situazionismo, cioè creare appunto, no, una situazione di gioco con l'idea. Anche del situazionismo c'era anche l'approccio psicogeografico, no? Cioè, sì, quello era più di Stalker, non era mio. Io ho seguito il lavoro di Stalker per alcuni anni, perché sì, andandomi a occupare di temi di cui si occupava anche Stalker a Roma, li ho intercettati, mi ha molto incuriosito il lavoro che facevano. Ho realizzato 4-5 film documentari anche di 2 ore sul lavoro, sui singoli progetti di Stalker, quello al Casilino 900, Savorengo Guerra, un altro sempre con i Rom tra Roma e ex Jugoslavia, poi una Taranto, insomma abbiamo lavorato molto insieme, ma io ero ancora documentarista o curioso che seguiva il lavoro artistico fatto con le comunità, diciamo così, rom o migrante o quello che era, diciamo, della metropoli di Roma, insomma della città di Roma. Quindi io ero, diciamo, libero di raccontare gli stalker come mi pareva, perché non ero uno stalker, non dovevo fare la riunione con loro per decidere se usare una parola o no, un'immagine o no, ma al di là di questa libertà il mio era una restituzione più possibile corretta del lavoro artistico altrui, diciamo. Invece da quel momento in poi il lavoro artistico, anche se in parte l'ho condiviso anche con un pezzo di Stalker, che però questa volta abbiamo invitato noi a giocare, era Piccio con il suo corso di arte civica, diciamo lì inizia questo nuovo modo che mette anche da parte quella, tra mille virgolette, ipotetica artisticità delle foto. Io ho partecipato a biennali, a mostre internazionali di fotografia con le fotine che qualcuno poteva dire che erano anche artistiche, però io non considero oggi nessuna di queste produzioni mie personali arte, considero arte i dispositivi partecipati, corali, diciamo, che invento e che sono a disposizione innanzitutto degli altri artisti, cioè, perché poi anche Space Metropolis invitava gli altri artisti a partecipare al gioco e a dare il contributo. Quindi parte questo appello, no? A un certo punto. Space Metropolis lavora, allora noi vogliamo realizzare questo razzo, non ci si riesce perché pensavamo di essere anche cacciati via, pedate dagli occupanti, perché magari impegnati in cose più serie, diciamo, bisogni di prima necessità, mantenere il tetto sulla casa, mettere il pranzo e la cena insieme, quindi diciamo giocare al gioco dell'arte è sempre una roba che può sembrare diciamo così, qualcosa che interessa a chi viene dal centro e non sa come passare la giornata, diciamo. Allora, invece non siamo stati cacciati, però effettivamente questo razzo non lo costruiva nessuno, cioè non c'era la fila degli abitanti che tutti i giorni che noi arrivavamo stavano lì pronti a giocare, no? Quindi abbiamo iniziato come strategia a invitare altri artisti a fare lezioni. Questo è stato molto utile come proprio espediente, siccome non li avevamo tutti insieme, tutti scappavano con mille faccende, ne incastravamo una famiglia, una volta di peruviani, una volta di eritrei. Dici: guarda, domani devi ospitare la lezione davanti a casa tua, preparare un pranzo meticcio, sì, una cosa per stare insieme, certo. Il caffè, il tè, il couscous, ma comunque siamo a casa tua, quindi questo obbligava perlomeno quella famiglia a essere presente. E abbiamo portato Silos Labini, astrofisico, abbiamo portato Cesare Pietro Iussi a parlare di arte, abbiamo portato filosofi, abbiamo portato anche un vero astronauta che è Guidoni, Guidoni è venuto, ha raccontato quando stava nello spazio, quindi abbiamo spinto per far entrare questo gioco della Luna, che non era un gioco di Metropolis, era una cosa aliena, una specie di virus che noi, cui noi volevamo... C'è stata qualche resistenza, ma se avessi proposto un programma del genere in un museo istituzionale non sarebbe forse stato altrettanto semplice per certi versi? Non lo so, questo dipende, non ne ho idea. Diciamo che lì la motivazione era, abbiamo spiegato, cioè volevamo fare quel razzo per creare da una parte proprio un'istanza di libertà, cioè dico, vabbè, e infatti era la notte rispetto al giorno, era la luna rispetto al sole, no, era la domenica, cioè c'era anche lì, vedi che poi lo strutturalismo con le sue opposizioni binarie torna sempre, no, perché il gioco era sole, luna, festa, lavoro, no, insomma, come dire, obblighi e libertà, cioè, noi andavamo nella direzione del gioco, cioè di un momento in cui i bisogni si potevano tradurre in sogno, cioè lavoravamo per, come dire, portare a Metropolis questo spazio di libertà, diciamo, giocate con noi al gioco dell'arte, che è un gioco che in teoria appartiene a tutti gli umani, anche se nel nostro mondo per tanti motivi l'artista invece è una figura molto, come dire, professionalizzata, molto definibile, molto, no, diversa da tutti gli altri umani che non producono arte, però in verità, insomma, è una caratteristica dei sapiens, diciamo, quello di produrre arte, ma anche di produrre cose inutili. L'arte è inutile nel senso che non serve ai bisogni di primaria, fa parte in trattino utile, no, è utilissima. Nel caso di Metropolis faccio un salto di 15 anni, 16 anni, diciamo, ha garantito la casa a tutte e 70 le famiglie, e ha inventato un nuovo museo per Roma capitale, quindi diciamo che è servita, però non nasce. L'arte non è mai funzionale, cioè l'arte non è una cosa, come anche la scienza pura non è funzionale, no, la tecnica è funzionale. L'equivoco spesso, l'arte ormai ridotta a strumento economico, Però prima c'è da fare un altro passaggio, cioè prima ancora di decidere la monetizzazione c'è il problema della funzione dell'arte, che è un problema precedente, pre-politico e pre-economico. Sì, sì, ma la funzione dell'arte è di non avere funzione, cioè nel senso sì, è proprio... Però l'abbiamo, cioè, abbiamo saltato anche la parte in mezzo. Sì, sì, sì, ma diciamo io sempre riparto alle origini dei Sapiens, quando, che poi pare che fossero i Neanderthal a essere stati i primi. Mio amico Pablo Echaurens sostiene che il ready-made sia la prima forma d'arte. Abbiamo fatto vedere le cave di Altamira, però erano più recenti. Quelle sono più recenti, però diciamo comunque l'arte entra, diciamo, e non esce più dalla vita dei Sapiens, no? E all'inizio è proprio unita all'abitare, per questo anche Metropolis era interessante, cioè era come ripartire dal via, no? Cioè dove si vive c'era l'arte, no? No? E questo è successo a fine progetto, cioè quando gli abitanti di Metropolis, dopo che il razzo è partito con dei mortaretti accesi, cioè le riprese del film sono finite, noi siamo andati in montaggio, diciamo, ci hanno detto non andate via. Io pensavo onestamente che, il razzo fosse stato alla fine costruito proprio perché non ne potevano più delle nostre continue pressioni a tema lunare, dice basta, mandiamoli a casa. Invece ci hanno detto rimanete. Io ho proposto un altro dispositivo di gioco, questa volta facendo tesoro di quelli che erano i relitti artistici spaziali realizzati nel 2011, quindi il telescopio di Gian Maria Dosati, che è uno degli artisti più importanti italiani, insomma, al momento, realizzato in cima alla torre, il muro di Stenelex, quello di Luca Maleonte, insomma, quelle poche opere che erano servite a fare il razzo, cioè non le avevamo richieste, ma erano sempre... Poi sono diventate il nucleo di questa prima collezione del museo. Ora, perché portare il museo dentro un'occupazione abitativa? Cioè, diciamo che sembra abbastanza fuori, no, di testa. Diciamo un po' il racconto, ci stiamo arrivando. Diciamo intanto era unire il punto più alto e il punto più basso della città contemporanea, cioè portare nello slam, nella polvere sotto il tappeto che nessuno vuole vedere, il punto d'eccellenza. Sì, ricordiamolo che il museo dell'altro e dell'altrove di Metropolis, come poi si sarebbe chiamato, cioè MAM, sì, sorge all'interno di questa occupazione, che è l'occupazione dello stabilimento industriale. Sì, dell'ex Fiorucci sulla via Prenestina, che era una fabbrica dismessa, rovinata, lo è ancora dopo tanti anni, dove 200 migranti precari avevano trovato casa grazie a un movimento di lotta per il diritto all'abitare, che nel caso specifico si chiamano BPM, Blocchi Precari Metropolitani. Quindi il museo arriva lì per fare questo cortocircuito. Che vuol dire fare il cortocircuito? Cioè, il museo è una parola che ancora è pieno di sacralità, nonostante il museo sia anche pieno di sangue, di rapine, di cose, però diciamo museo è un posto dove si entra in silenzio, dove automaticamente quello che c'è dentro ha valore, cioè tutti siamo, come dire, non ci dobbiamo neanche pensare, quando una cosa sta nel museo c'ha valore, no? Al di là di quali sono i meccanismi della valorizzazione, cosa c'è dietro, che ragionamenti, che interessi, però diciamo il museo è un recinto ancora sacrale, nonostante viviamo in un mondo sempre meno secolarizzato. Sì, sempre più secolarizzato, però è un recinto, quello che entra trasmuta in qualcosa che o ha più valore, ma addirittura trasmuta in qualcosa che non è, nel senso che se io ci porto questo bicchiere da Duchamp in poi e lo metto nel maxi, questo non è più un bicchiere ma è un'opera d'arte, no? Quindi diciamo che io spero che sia meglio dell'orinatoio. Sì, sì, ma non è così, non fa delle grandi differenze, diciamo. Quindi il museo c'ha questo potere, allora il potere di dire che gli abitanti di Metropolis hanno valore, che sono una ricchezza, che sono, no? Quindi mettere questa protezione del museo intanto con la sua aura, diciamo, e poi anche con le opere attaccate ai muri che sono arrivate negli anni, che sono state centinaia, noi ne abbiamo contate 800 nel 2017, poi ci siamo fermati, ma insomma sono centinaia e centinaia di lavori che hanno creato questa sorta di barricata a difesa dello spazio abitativo, hanno contribuito a riqualificare molti spazi della fabbrica che avevano bisogno. Certo, non era architettura, era una pittata ai muri, però sempre meglio del muro cadente, insomma. Faccio un piccolo sondaggio: quanti di voi sono stati al MAM fisicamente? Al Museo dell'Alto dell'Altrove di Metropoli sulla via Prenestina? Va bene, beh, poi se vuoi si può far vedere un video, una cosa, sì, se lo vuoi cercare. Assolutamente sì, sì, sì. Se lo vuoi cercare, c'è un ci dovrebbe essere un Metropoli, sì, su YouTube ci dovrebbe essere un Metropolis UNESCO, prova, perché è un video istituzionale fatto per la campagna UNESCO. Ok. TV questo, ma questo, sì, sì, sì. Lo vediamo, sono 5 minuti. Se vi va, giusto? Sì, sì, entriamo. Se no, lo possiamo anche mandare in muto, ma... però facciamo un po' di pausa. Non so se è quello sottotitolato, forse spero di sì, perché sennò è in inglese. Ah, ma l'inglese non è un problema. Beati voi. Per me continua a essere un problema. Ecco, guarda, ci sono i sottotitoli. Sì, sì, fantastico. The inherited museum, Metropolis, was born in the eastern suburbs of Rome, in Via Prenestina, 913. Most of the tall Sapienza district, in the former industrial area that housed the Fiorucci Cure meat factory until the mid-1980s. The area had remained abandoned and unused until March 2009, when a mestizo community decided to settle there, giving life to an experience of sustainable urban regeneration on an environmental, economic, social, and cultural level through the recovery and reuse of the structures of the former factory, which has been transformed over the years into a museum of contemporary art that is unique precisely because it is inhabited. Reusing the material that was available in the factory and drawing on ancient construction techniques such as round earth. In the area, 70 houses have been recovered for over 200 Italians, migrants and refugees. Roma, Romanians, Ukrainians, Peruvians, Moroccans, Sudanese, Eritreans and Ethiopians. And also a space for public use, the MAAM, Museum of the Other and the Elsewhere of Metropolis Mestizo City. The community is in charge of its continuous care and of the reception of visitors through guided tours and through the Mestizo Kitchen, an intercultural place of meeting managed by a group of women. The former Fiorucci factory regeneration experience took place through the encounter and cooperation between its inhabitants, artists, housing rights movement activists, territorial activators, students, researchers and supporters who have chosen to advocate the right for decent housing, childhood and culture for all. The over 80 underage children who live in the museum share spaces where they can study and play through a number of activities aimed at educational aid and sports. These activities are open to the territory as well as the initiatives of MAAM that are experienced by the whole city. The MAAM, which counts more than 600 artistic interventions, is a choral work of art on an urban scale that conveys the utopian and tangible image of a potentially different, inclusive, rural, fair, self-managed city and of a social, generous art capable of building a shared space starting from the project of the give. The affirmation and defense of fundamental human, civil and social rights are at the basis of the birth of this multicultural community that in mutual respect and in the valorization of differences shares the task of maintaining this asset which is recognized as an essential part of its cultural heritage. This experience produces in the community a strong sense of identity. The inhabitants have called themselves Metro Veneziani, and of continuity through its daily replication and through the transmission of its cultural, social, and political value to the generations born and raised within it. Possiamo anche fermarci qui tanto. Sì, interessante, mi è venuto in mente rivedendo dopo qualche anno la maglietta di Nunesco, no? C'era anche un gioco di parole. Tu sei un grande appassionato di questi giochi di parole. Sì. Però in questo caso diciamo la parola Nunesco, che ovviamente era in relazione al fatto che c'era lo sgombero imminente. Era ancora la secondo nella lista degli sgomberi, no? Eravamo primi nella lista degli sgomberi dopo due maxi risarcimenti diciamo riconosciuti alla proprietà, che è Salini è quello che deve fare il ponte sullo stretto, sì, che fa la metro a Roma, che ha fatto il ponte Morandi, che ha fatto la diga della Valle dell'Omo, che ha fatto il restauro del canale di Panama, quindi diciamo insomma non è l'ultimo arrivato. Quindi, devo dire, alla fine vi ha ascoltato, ma anche non ha ascoltato noi, ha ascoltato il comune, ma era anche giusto così, cioè non doveva ascoltare noi. Io una volta sono stato chiamato da Salini, sono andato negli uffici della Salini a Fontana di Trevi e mi hanno detto: che state facendo? Io ho raccontato il progetto del museo e io ho proposto di fare i primi costruttori sulla Luna insieme a noi, però questa cosa insomma diciamo non li ha convinti. No, si immaginava. Ma secondo me non tanto per un fatto di diciamo di denaro, che comunque insomma è il mestiere loro, è quello di accumularlo, diciamo anche per tutti quelli che insomma dipendono da questi multinazionali eccetera in termini di investimenti, però credo che accettare da noi questa sorta di resa, cioè in realtà era una mano tesa, certo, era una resa, era, io gli ho detto: vinceremo la Biennale insieme se facciamo questo passo. Quello ho guardato, ho detto sì. No, però era vero, perché se altro che greenwashing, cioè, certo, sarebbe stata una grande operazione anche dal punto di vista del marketing, no? Sì, visto no, che fa danni in tutto il mondo, una cosa buona, no? Poteva fare. Però non l'ha accolta all'epoca, ed era giusto che ci fosse intermediazione del Comune di Roma, che a un certo punto, di fronte veramente allo sgombero imminente, il prefetto ha detto: non possiamo sgomberare un museo, perché una delle ragioni che c'era chiara sin dall'inizio è che fare un museo avrebbe protetto l'occupazione, perché distruggere un museo, sempre per quel discorso che facevamo della sacralità delle opere dell'arte, è molto più difficile che mettere in mezzo alla strada 200 persone. Senti, di cui 70 migranti, certo, diciamo. Certo. Quindi, in un momento in cui i migranti erano, per intenderci, nel discorso pubblico la Sea-Watch, erano il Papete, erano, cioè il tema dei migranti occupava il discorso pubblico nel modo più tossico possibile, cioè rispondendo alle sollecitazioni dell'industria dei media, delle esigenze politiche, la strumentalizzazione eccetera, quindi anche riuscire a inserire il tema dei migranti su una chiave diversa, secondo me era un passaggio anche molto coraggioso. Arriviamo al secondo capitolo di questa, sì. Ma in realtà tu hai avuto anche altri incarichi, adesso dobbiamo citare quelli principali. Ma parliamo di contenuti. A un certo punto a Roma succede questa cosa strana, e cioè che dopo addirittura che il sindaco che era poi candidato del PD, ma un po' strano come candidatura, no? Viene fondamentalmente esautorato con una riunione davanti al notaio, insieme governo e opposizione decidono di cacciare Ignazio Marino, e se guardi la mappa delle elezioni del 2000, quando è stato 2016-2017, tutti i municipi che avevano sempre storicamente votato a sinistra e poi con Alemanno a destra, improvvisamente quella mappa si inverte completamente, cioè il centro, il municipio 1 e 2 sono votati ancora, cioè votano per la prima volta PD, non per la prima volta, perché poi c'è, sì, Prati in realtà, che è sempre stato diciamo feudo della destra, però la cosa incredibile è che tutte le zone storicamente anche riqualificate della sinistra, pensiamo a Petroselli, no? a quelle giunte, Arganna, insomma, tutte le, i feudi della sinistra votano improvvisamente il Movimento 5 Stelle. Possiamo poi a lungo anche discutere su, su cose che non riguardano questo corso, però si crea una specie di allineamento dei pianeti per cui alcune istituzioni culturali diventano obbediscono improvvisamente a regole diverse rispetto a quelle che avevano fino a quel momento governato la cultura a Roma. E anche qua quali? Anche qua, qua. Io mi faccio sempre la domanda, no, perché non è vero, non c'è stata nessuna regola. Beh, prima c'erano delle regole, ok, per cui un museo comunque doveva essere affidato necessariamente a un curatore che prendeva una certe risorse economiche, eccetera. Sì, tu stai dicendo che il Magrosilo è un, come certa stampa ha scritto, è un prodotto 5 stelle. No, non sto dicendo questo. No, nel senso populista. No, non è così. Assolutamente, perché, scusami, sto dicendo il contrario, perché l'assessore alla cultura Bergamo era tutto tranne che un 5 stelle, però era sempre stato messo da parte anche dalle precedenti, no, amministrazioni di sinistra, nonché, nonostante avesse fatto cose importanti a Roma come Enzimi, eccetera, quindi cioè, aveva una sua storia di successo a Roma, ma una storia disintermediata dalla politica. Quindi secondo me si creano, non lo, lo scollego, no, una battuta, sì, lo so come la pensi, però, però in realtà no. Uno degli errori dei 5 Stelle, sì, io non ero 5 Stelle, ma mettendomi nei panni di una giunta 5 Stelle che ha avuto il fuoco incrociato di tutto, stampa, per qualunque cosa, quindi, a prescindere, diciamo, era cambiare, diciamo, io avrei cambiato 10-20 direzioni di cose il giorno dopo per non avere il fuoco incrociato di tutta la città importante contro di me, no? Certo. Cosa che non ha fatto, forse non si deve fare, forse per una forma di eleganza, cioè, ma secondo me se tutti i luoghi della città sono rimasti nelle mani di, praticamente di chi l'aveva gestita, perché la scelta era la stessa scelta pilatesca dei limiti a 30 km all'ora, no? Cioè, a un certo punto il governo è diventato non governo della città, possiamo dirlo questo. C'è stata l'opposizione di tutti a questo governo votato, diciamo. Ora, lasciamo perdere, poi hanno fatto cose giuste e sbagliate, c'erano buone idee, c'erano cattive, ma di qualunque idea avessero avuto non godevano di nessun appoggio da nessuna parte, nemmeno delle istituzioni culturali. Tu stavi parlando di Luca Bergamo, che era l'assessore alla cultura, per questo io nonché vice sindaco, che certo vice sindaco, quindi diciamo che lui veniva dal PD, forse non ha riconosciuto diciamo dentro questi feudi della cultura romana, ha riconosciuto degli amici, non dei nemici, invece erano, come dire, rispetto a un tentativo di cambiare le carte sul tavolo, erano poi di fatto persone non collaborative, secondo me, diciamo. Quindi la giunta non ha fatto voglio dire, è sempre chiaro che la politica non deve governare la cultura, non deve, però non può, siccome sappiamo che poi di fatto ogni posizione dentro questi spazi è anche politica, cioè, voglio dire, allora devi fare i conti. Beh, però possiamo chi dire gestisce che queste, diciamo, non fosse stato per questa frattura che si è aperta in città, secondo me il Macrosilo non sarebbe stato possibile, anche se non è una diretta emanazione, no, secondo ma me è chiaro questo, anche se voglio dire, con questa giunta diciamo il MAM è premiato, il Museo delle Periferie lo stanno costruendo e non è che sono altre due cose meno complesse, no, diciamo. Si sono create le condizioni, no? Si è creato anche un precedente, no? Per esempio, parliamo del tema della gratuità. La prima parliamo di come si come arriva al Magrasilo, perché allora diciamo, questo progetto ha avuto Bergamo viene nominato assessore alla crescita culturale, così ribattezza il suo assessorato, mi chiama e dice: la prima cosa che voglio fare come uscita pubblica è venire ed entrare al MAM. Ora sembra una banalità, però fino ad allora nessun politico in carica era entrato dentro un'occupazione abitativa, cioè entrare in un'occupazione vuol dire di fatto riconoscerne l'esistenza, siccome quella è una cosa contro la legge, diciamo, chi sta dalla parte della legge, dell'amministrazione, non poteva entrare. Infatti noi siamo stati visitati dalla barca che era ex assessora dal ministro, ex ministro Brai, quando non era più ministro, cioè ci venivano a trovare persone anche importanti della politica, ma sempre ex, cioè quando, e ogni volta mi dicevano: vedi che siamo venuti finalmente. Io dicevo: sì, ma adesso che non sei più ministro, che non sei più, cioè voglio dire, sei venuto da cittadino a vedere quello che succede. No, invece Bergamo, devo dire, entra con un codazzo di giornalisti, di cose, ma, e anche di intellettuali, c'era Radio 3, c'era Sinibaldi, un sacco di gente che si porta dietro a consacrare la storia di Metropolis, dicendo: per me Metropolis è quello che io intendo come crescita culturale. Cioè, quando io parlo di crescita culturale della città, dovete guardare a Metropolis come esempio. Quindi, il nome che prende l'assessorato è assessorato alle culture in quel momento. No, è alla crescita culturale. Alla crescita culturale. Sì. Adesso è sempre ritornato cultura, però all'epoca era crescita culturale. Cioè, lui aveva un piano, diciamo, per... Si dava come ruolo quello di far crescere, diciamo, non la cultura con la C maiuscola, sì, diciamo una sensibilità dei cittadini verso, diciamo, quindi lodevole anche il suo coraggio di entrare lì. E lui conosceva Bergamo molto bene, il mamma mi aveva invitato quando dirigeva Culture Europe, non so come si chiamava adesso esattamente, questa istituzione di Bruxelles, a raccontare il MAM, diciamo, alla comunità europea, perché secondo lui era comunque un esperimento importante. Lo valorizza, ma non si ferma lì. Questa sua visita segue, diciamo, l'invito, mi chiama, mi dice: ti vorrei affidare il Macro, che viveva, il Macro è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, quello di Via Nizza, dice, all'epoca era anche il mattatoio, dice, perché era in grande crisi, si sapeva bene come smuoverlo, dice: vorrei che tu facessi un progetto tipo mamma. Naturalmente non era il mamma, non è che mi stava chiedendo di portarci a dormire le famiglie, però voleva una cosa così, diciamo, una specie di miracolo alla mamma, tradotto, per un museo pubblico. Bergamo che visita il MAM, è l'istituzione che riconosce una realtà che sarebbe illegale, e il Macro Asilo affidato a Giorgio De Finis con questa logica significa l'istituzione che ospita una forma di vita a cui prima non veniva data, ospita delle forme di vita a cui prima non venivano date. Questo non era così chiaro, lui voleva che io, diciamo, facessi un piccolo miracolo modello mamma, non si sa bene con quale, però con 400 chiave. Aspetta, questo era il meno, questo, perché al mamma c'era zero. Quindi la questione dei 400.000 euro, che è una questione importante per capire anche certe scelte, no? Che ho fatto, è secondaria, perché il mamma era stato realizzato con zero fondi pubblici, zero fondi privati, cioè era la somma di doni generosamente offerti da ogni singolo che realizzava l'opera, quella era la formula. Cioè, per proteggere questa sorta di cattedrale laica che stavamo costruendo e non farci dire: state prendendo i soldi sfruttando i poveri, i bambini del Metropolis, oppure perché spendete questi soldi che avete ottenuto. Questo succede mentre la Documenta 14 viene accusata di crisis tourism da Varoufakis, quindi anche per prevenire questo tipo di cose. No, ma per dire, proprio anche per prevenire la solita cosa che ti dicono: state spendendo 10.000 euro per fare un muro, però potevate rifare le fogne, che sta povera gente non ha le fogne. Sì. Cioè, allora, qualunque cosa tu mettevi sull'arte, ottenendo un finanziamento, sarebbe stato un boomerang, cioè ci avrebbero detto che stavamo facendo male, diciamo. No, siccome io invece volevo proteggere la purezza del progetto, e meno soldi si ha, l'ho detto ieri a Roma 3 parlando con gli economisti della cultura, con cui mi sono un po', diciamo così, diciamo, battibeccato, era inevitabile, però no, io ho detto i progetti funzionano veramente a 0 euro, quando ce n'hai uno funziona un pochino meno, con 10 un pochino meno, cioè, quindi è un paradosso naturalmente, non vuol dire che la gente deve lavorare gratis o che non ci sia diritto. Te lo ricordi questo disegnino, no? Me lo ricordo questo che, disegnino. Adesso non è un monumento al baratto, a parte la parola audience che tu mi hai molto bacchettato, che infatti andrebbe riscritta citizens, però tutto il resto era scambio in kind, non in equity, come si dice, sì, no? Sì, però qui c'è già una cosa dello scambio, anche il dono c'ha una reciprocità, come ci insegna l'antropologia, quindi non è che se ricevi un dono poi sei anche obbligato a ricambiare il dono, quindi diciamo il dono non è una cosa a senso unico, no? Prevede anche lo scambio, però io già sotto il baratto volevo essere, cioè volevo stare nell'economia del dono che supera la questione delle cose donate. Cioè, cito il caso famosissimo dei trobriandesi che si scambiavano, facevano viaggi perigliosi in mare dove rischiavano anche la vita per arrivare su un'altra isola e scambiarsi dei braccialetti tutti uguali. Ma questa cosa, cioè, nel senso, io arrivavo col mio, tu ce l'avevi uno uguale, ce lo scambiavamo e ci ributtavamo ad affrontare la tempesta, no, per tornare a casa. Ora, questo comportamento apparentemente illogico, no, ha molto colpito gli economisti, diciamo, ma non solo questo, anche il potlatch degli indiani d'America, quando a un certo punto venivano bruciate grandi ricchezze, no, uno dice ma questi proprio, cioè, vedi, non so, perché fanno cose così irrazionali, mentre l'homo economico si viene raccontato, no, come massimizzare i guadagni col minimo sforzo, cioè proprio la razionalità. Sì, fino alle quote latte, sì, quando si ricomincia a distruggere. Sì, sì, però sì, vabbè, ma sempre però per un discorso di razionalizzazione estremo. Invece questi comportamenti vanno spostati dal discorso dell'economia a quello della società, cioè che cosa guadagno io scambiando con lui un braccialetto uguale al mio? Guadagno una relazione, guadagno un'amicizia, un patto, una, no? Che cosa si guadagna quando si... Adesso questa cosa, se oggi si dice così, non so, non ho mai letto niente contro, ma all'epoca si poteva dire, oggi c'è imbarazzo a dire lo scambio di sorelle, però nella tradizione... diciamo dell'antropologia classica, no? C'erano dei modelli sociali in cui si prevedeva lo scambio di sorelle, cioè, e Levi-Strauss teorizza che la nascita della società umana, cioè proprio della cultura, lui dice, cioè del fatto che non siamo più natura ma diventiamo cultura, il divieto dell'incesto. Ora, il divieto dell'incesto non era una cosa freudiana di natura psicanalitica, era una cosa molto pratica, cioè faceva trasformare, diciamo, le famiglie, i nuclei familiari da cose verticali, cioè papà, mamma, due figli, i due figli si accoppiano, generano altri due figli, si accoppiano, cioè voglio dire delle cose fatte così, delle discendenze lineari verticali in cose fatte così, cioè io ti do mia sorella, tu mi dai la tua, diciamo dal punto di vista della somma è una somma, somma zero, cioè nel senso io prendo una donna da un altro gruppo e perdo una donna del mio gruppo, ma cosa nasce da questo scambio? Nasce questo tipo, cioè nasce il cognato. Sì, se mai il problema è nasce che si scambiavano i fratelli. Il genero, nasce la suocera. No, no, ma sì, ma anche lo scambio dei fratelli, sì, oggi potremmo dire così, certo, ma non esiste nella società, perché evidentemente il patriarcato è più incarnato di quello che si pensa, cioè non è solo una cosa occidentale. Ma diciamo, al di là di quello, però mettiamolo a rovescio per capirci, possiamo pure dire A e B, C e D, cioè, però il senso era che il dono c'ha una funzione sociale, cioè è fuori dell'economia, è dentro la costruzione della società, cioè è fondamentale per la costruzione della società non è fondamentale, esula dai ragionamenti. In un museo come si trova? In un museo come quelli che ho fatto io era tutto logica del dono. E qui ripartiamo ai 400.000 euro del budget che Roma Capitale mi mette a disposizione per aprire un museo. 400.000 euro l'anno sembrano una cosa enorme, se uno ha una piccola associazione si da fare, è una cosa enorme anche per il mamma che non ha mai avuto un euro, però se uno li divide per 12 mesi sono poco più di 30.000 euro, se ci devi pagare gli stipendi di tutto il personale, voglio dire, ne rimangono 2, 3, 4.000 euro. La dimensione, il maxi sono 21 milioni di euro l'anno, sì, sì, la documenta sono 46 milioni per 3 mesi. Sì, il museo che citavi di Weibel erano 28, 26, 28 milioni l'anno, diciamo il Magra aveva 400.000 euro. Quindi diciamo che allora una persona seria dice non vi interessa il museo, quindi lo chiudo, cioè con questo budget il museo va chiuso, punto. Ed è uno che fa il suo lavoro, diciamo, no? La modalità classica con cui questi musei andavano avanti era quella di fare accordi con le gallerie o ricevere, diciamo, chiave in mano delle mostre anche ben fatte, che però non decideva, diciamo, il direttore, cioè semplicemente arrivava la galleria dicendo il catalogo pago io, le mostre, l'allestimento dell'artista sono questi, tutto a posto, l'ufficio stampa pure, grazie. E uno dice abbiamo fatto una bella mostra. Il palazzo era un moltiplicatore di aura o di promozione, no, o di comunicazione. Sì, nel sistema dell'arte, quello come lo descrive Bonito Oliva, ma certo. Tutti, diciamo, è una catenina di perle, diciamo, dove c'è l'artista, l'ultima ruota del carro, il collezionista, il critico, diciamo, la galleria e il museo. Diciamo, il museo è il punto estremo della valorizzazione, cioè quando dallo spazio privato si entra allo spazio pubblico vuol dire che l'artista viene consacrato, che aumenta 0,5 punti di voi percentuale coefficiente di mercato, cioè una galleria, una catena di porter, per usare il linguaggio caro ai tuoi amici economisti che hai incontrato ieri, cioè c'è qualcuno al centro che deve governare fonti di ricavi, spese eccetera, giocando su alcuni asset non duplicabili. In questo caso l'asset non duplicabile è appunto l'istituzione del museo. Diciamo che questo passaggio è ancora vero oggi, funziona così come le biennali, cioè il biennale un po' meno perché hanno più ormai varietà, ci sono artisti che entrano dentro un padiglione per un anno, sono dei supereroi, poi spariscono, non si nominano più, diciamo, però fino a un certo punto questa entrata nel museo, qua ci sono musei di gerarchicamente più importanti di altri, quindi dipende anche in che museo entri, però diciamo era comunque una valorizzazione, diciamo. No, quindi non chiudiamo il museo, non lo diamo alle gallerie, perché io lavoro per la creazione di spazio pubblico, quindi non mi interessa, non faccio, cioè l'ho sempre detto, io sono totalmente fuori del sistema dell'arte, ma perché faccio un altro mestiere, cioè semplicemente non faccio il critico, non faccio il gallerista, non faccio... Quindi sei l'inventore del dispositivo, ma non sei un curatore. No, ma io sono anche un curatore, ma sono il curatore del dispositivo. Sono il critico, cioè non a me, come dire, mi può anche interessare un artista rispetto a un altro, ma non è quello che devo fare dentro il museo, quello fa parte del... Una volta avevi detto che era proprio quasi un'opera d'arte a quel punto. Sì, ma per me il museo è un'opera d'arte a più livelli, cioè come lo intendo io è un'opera singolare, cioè la mia, il dispositivo, cioè chiamarlo, dargli le regole del gioco, capire dentro quel site specifico, quel community specifico, diciamo, come giocare nella maniera più utile possibile. Dopodiché diventa, alla fine del processo, cioè quando il museo chiude, diventa un'opera corale, cioè tutto quello che si è fatto dall'inizio, quando era una scatola vuota, diciamo, con i pedoni ancora infilati nella busta, a quando si smette di giocare, tutto quel percorso che si traduce in foto, video, opere, racconti, incroci, quello è che ci interessa, cioè il discorso di cosa rimane anche come archivio e come archivio digitale, perché il macro asilo tra, diciamo, i problemi legati ad avere un budget normalmente considerato. Sì, però la terza via non te l'ho raccontata, ma ci arriviamo, perché la terza via era la chiamata che il Microsoft ha fatto. Allora, diciamo, aspetta, prima di arrivare all'archivio passiamo. Sì, perché diciamo, qual è stata la terza soluzione che ho proposto? Sì, è stata quella di che un po' sulla scia, perché io poi da lì venivo, insomma, cioè dall'esperienza del mamma, è stata quella di dire: ok, tanto leviamo le casse. Cioè, dall'ingresso dici: ma come, non c'è una lira, levi pure le casse. Sì, togliamo le casse, apriamo il museo alla città, alla città tutta, ma ovviamente in primis, come sempre, agli artisti che mi devono aiutare nel costruire il gioco, no? Sono proprio la linfa del gioco, sono la forma, il corpo. Io creo una cosa senza corpo, cioè, no, poi il corpo non lo... ma neanche lo progetto il corpo, cioè non è che vado dall'artista, sarei un pazzo, un ingenuo a dire quel muro l'ho pensato giallo. Cioè, un artista fa il muro come vuole lui, deve essere libero, quindi io non do corpo, io do delle regole del gioco e poi mi metto al servizio di quel gioco quando l'artista arriva, diciamo. Anche se Baglievo un muro l'ha dipinto di giallo, tecnicamente. Ma no, quello non l'ha dipinto Baglievo, l'ha dipinto Maurizio Savini. Ah, okay. Sul nostro invito, però diciamo era libero di dipingerlo anche di rosso, cioè nel senso che era un'opera che noi abbiamo realizzato per non creare un museo algida, ma dare il senso di una casa, diciamo, no? Uno scherzo. E quindi l'invito è stato a costruire insieme, cioè aprire le porte, far entrare quello che fuori c'è, cioè dove per autochiamata, cioè ciascuno entrava e diceva: io ci sono, potevi essere artista, intellettuale, regista, danzatore, importante è che ovviamente non eri il Mattarello della domenica, cioè non era una chiamata, era una chiamata agli artisti e agli intellettuali di come dire, farsi museo nello spazio-tempo che, negoziando con ciascuno, il museo concedeva. Quindi se il museo era organizzato per stanze, aveva 4 atelier dove si realizzavano, queste sono le regole del gioco, dove in 7 giorni si realizzava un'opera da zero all'opera finita, dove il pubblico poteva entrare, guardare silenziosamente, osservare lo sviluppo dell'opera, che permette anche di capire tante cose, no? E 4 artisti diversi che fanno cose diverse nello stesso tempo ti fa capire che non c'è solo l'arte di un certo tipo, di un altro, perché il direttore del momento gli piace quel filone, ma semplicemente che stiamo dentro un universo variegato, multicolore, multitutto, multisensi, eccetera. Al piano di sotto c'erano 3 stanze che lavoravano invece su progetti più lunghi di tipo relazionale, partecipato, quindi c'era l'artista sempre presente. Questa era una regola del macro: l'artista doveva essere presente, non c'erano mai le opere senza l'artista, al massimo c'era l'artista senza le opere, se le voleva raccontare, diciamo, perché non aveva modo di portarle, di fare cose tipo lì. Pietro Iusti, che per 2 giorni parla. Pietro Iusti, quella è l'opera, sì, quindi sì, non sì, è vero che non c'era l'opera, la sua è un'opera smaterializzata, però c'era, lui era l'opera, era la performance. Quindi parla degli autoritratti. Io parlo degli autoritratti, nel senso che se un artista non ha tempo, voglia di stare 7 giorni in un atelier, o non fa quel lavoro, perché l'atelier è giusto per il pittore, lo scultore, cioè se inviti un artista che smuove una collina di sabbia con tutti la partecipazione degli abitanti del territorio, cioè voglio dire, non riesco a metterlo in un atelier, gli faccio raccontare. È che questo mito che l'artista fisicamente non deve mai apparire si è miseramente sgretolato, non solo perché ci sono state operazioni oneste come la tua di dire l'artista non solo può ma deve anche raccontarsi, ma anche perché il marketing, a un certo punto anche la parte più deteriore, ha stabilito che l'artista è una star, e quindi però ci sono ancora dei rituali. L'artista è senz'altro una star, soprattutto nel sistema lo è ancora di più. Io avevo artisti che rispettavo tantissimo, soprattutto perché generosamente venivano a darci una mano, però insomma c'erano star e meno star, c'erano artisti di tutti i tipi. Naturalmente gli artisti più star dovevamo faticare per portarli, per fare appunto per avere le querce e i funghetti. I funghetti arrivano anche da soli e bisogna anzi un po' arginarli perché sono tanti, però non volevo fare il padiglione dei rifiutati, cioè non volevo fare il contromuseo o dire no, i bravi sono da cacciare, sono, cioè vedi, quella è una roba ideologica, non ha nessun senso. Io volevo veramente uno spazio dove tutto il mondo sia una specie di buco nero che come dire, attirasse dentro tutto il mondo, lo mostrasse e rapidamente lo risputasse fuori con una porta girevole. Questo per far sì che le persone potessero incontrare tutta questa diversità, per far sì che gli artisti apparissero, mentre invece il sistema di solito lavora per la sparizione dell'artista. Detto così sembra una roba da matti, ma l'abbiamo già largamente affrontato. No, però è proprio così, perché per farne entrare pochi, no, e creare il mercato, il valore, la sicurezza anche del mercato, perché io investitore, se devo spendere cifre importanti, se l'artista voglia delle garanzie che non ha e non esistono realmente, ma qualcuno finge di essere garante del fatto che tra 100 anni quella sarà l'artista che rimane nei libri di storia dell'arte, se no io perché devo spendere 1 milione di euro? Cioè, se uno mi dice ma questo è uno dei 7 milioni che ce ne abbiamo, vedi tu, insomma, no? Quindi, a proposito di giochi di parole, il calambur, la festa con cui ti sei congedato alla fine del progetto, si chiama la Finis. C'è un nome che... Comunque, che vuol dire fine anche. Dopo aver visto la terza via, che poi quando hai detto terza via mi è un attimo confuso perché mi sono ritrovato nella così, sì, nelle definizioni tipiche della critica, la terza via. Dunque, no, arriviamo al tema invece dell'eredità digitale dell'archivio, no? Hai ereditato praticamente un'infrastruttura molto povera in realtà per mettere in piedi il sito del museo, che è questo qua, che è praticamente un WordPress con una decina di template. Allora, il classico sito che però appunto ti dimostra ancora una volta quello che io sostengo da tempo, cioè che quando l'interfaccia è particolarmente futuribile, avanzata, con effetti speciali eccetera, in realtà ti confonde un po' le acque e toglie il potere, diciamo, della persona di utilizzare internet nel modo migliore. Cioè, più il sito è semplice e più è facilmente poi trovabile ciò che davvero conta, no? In questo caso qui voi creavate praticamente delle schede di ogni singolo evento, che all'inizio potevano essere la promozione dell'evento, no? Che ti diceva dove si svolge, a che ora, te lo ritrovavi nel calendario, no? Che potevi scaricare. Poi però col tempo diventava anche la scheda che unisce, se c'era, anche l'archivio fotografico, l'archivio video, quindi diventa un archivio incrementale, che è quello che, per esempio, io lo dico sempre, Viliani avrebbe voluto fare al Madre a Napoli, che lui non è riuscito a fare. Invece paradossalmente qui ci siete riusciti, perché unendo poi tutto quanto, no, c'erano tutti i video di ogni singolo... Diciamo che intanto tra i 10-11 collaboratori che avevo, 3 erano assunti come videomaker, cioè, che non è una cosa, che è una figura che nel museo esiste. Il museo attualmente, anche grazie alla nostra, continua a lavorare voglio dire, i Monkeys Lab continua. Lavorano in tutti i musei, ma fanno la vernice, cioè non sono assunti dentro la Galleria Nazionale, il Maxi o Palexpo, cioè perché non c'era un palinsesto, cioè c'è il momento della mostra. Oggi il video, prima proprio non esisteva, oggi il video va fatto, quindi loro continuano a fare dei video di comunicazione, però non c'era, mentre invece di fronte a un museo palinsesto dove ogni cosa che entrava scompariva dopo poche ore, no? C'erano cose che veramente duravano un'ora, poi c'era la performance e poi tutto spariva. Allora, capito? C'era anche il rischio di incrociare, paradossalmente, nonostante i numeri, perché noi abbiamo avuto 330.000 visitatori, più di 1.000 artisti al lavoro, conferenze, numeri mostruosi eccetera, c'era anche il rischio, data la velocità in cui le cose entravano e uscivano, c'era anche il rischio di come dire, di entrare in un momento nel museo e non vedere niente, cioè se uno era sfortunato ma entrava dalle 11 che casualmente nel palinsesto era appena finita una cosa e alle 12 e mezza iniziava un'altra, si faceva un giro e diceva ma magro non c'è niente. Una domanda che mi è rimasto sempre il dubbio, ma Luca Valerio la notte dormiva lì? Luca Valerio non dormiva lì, cioè, però ti faceva credere che quella era diventata la sua casa. Sì. L'unico che dormiva al Magro ero io. Eri tu. Sì. Beh, però devo dire, questo possiamo dire che è uno dei tipici esempi di quello che succedeva, no? Perché qui non siamo né nell'alto né nel basso, no? Cioè non è un artista particolarmente affermato Luca Valerio, però non è neanche, diciamo, è un docente d'accademia, è un artista, è un docente d'accademia che però voleva trasformare questo spazio in un luogo dove giochi anche su questa ambiguità, che cosa c'è di artistico in quello che succede in quello spazio. Di fatto tu ti ritrovavi con gli oggetti di casa sua, con la sua libreria, con il suo divano, con il suo tavolo, ti offriva il tè e conoscevi anche altre persone che visitavano l'ambiente insieme a te. Vabbè, questo diciamo rispondeva in questo caso quasi in maniera didascalica sia all'invito del museo di farsi anche casa, no? Ma anche proprio al dispositivo degli ambienti, come si chiamavano, che erano diciamo relazionali, quindi dove l'artista doveva stare, allora l'artista, è il caso, lui ha detto se devo stare mi porto casa, faccio trasloco e ben, sono stati progetti, quello di Francesca Fini, certo, cioè, che erano un po' meno, no, come dire. Mentre per vedere l'opera mentre viene realizzata c'è l'atelier, anche questo è documentato nel video, cioè ogni singolo passaggio aveva proprio come regola il fatto che venisse documentato. Era anche, diciamo, se qua volevi parlare di baratto, diciamo, era anche quello che noi offrivamo all'artista, cioè l'artista era invitato a contribuire generosamente al funzionamento di questo spazio che altrimenti andava chiuso. Quindi diventava una specie di se il Mamma poteva essere paragonato a una cattedrale laica, questo era un monastero laico, cioè qua si ricopiavano i codici, si dibatteva delle grandi questioni. Allora, gli artisti oltre a fare quello però avevano un riconoscimento minimo che era la documentazione, il catalogo, la pubblicazione, cioè noi tutto quello che veniva fatto nel museo veniva documentato, riproposto e pubblicizzato, cioè questo per era... riprendere un po' una buzzword tipico dei musei, cioè i musei non hanno sempre avuto dei public program, no? Oggi sembra praticamente, si dà per scontato che ogni mostra, anche in spazi molto più piccoli, no? Penso al basement di Viale Mazzini eccetera, devono avere un programma di talk, di eventi, di discussioni. Ecco, questo senza neanche dirlo, nel macro asilo di Giorgio era un programma continuo, cioè ogni giorno c'erano 2-3 talk di vario tipo, e la cosa affascinante è che l'archivio li conservava tutti in audio. Ora, questa può sembrare una scelta quasi casuale, nel senso che loro avevano il mixer nell'auditorium, avevano una serie di strutture per registrare gli eventi, e quindi diciamo ce l'abbiamo, lo registriamo e poi lo mettiamo sul sito, cioè è venuto naturale. Ma vi assicuro che la stragrande maggioranza dei musei che oggi hanno degli importanti public program o non registrano affatto, o se registrano per forza deve essere anche un video, no? Quando parliamo della dittatura del visual, il video in realtà, un video di un'ora e mezza è autosaturante, cioè ti blocca lì davanti al video per un'ora e mezza, invece l'audio è qualcosa che puoi ascoltare, e il podcast ce lo insegna, senza interferire con la nostra vita quotidiana. Quindi quando organizzi un archivio, tu devi pensare veramente poi alla fine anche all'esperienza d'uso, cioè come le persone possono seriamente ascoltare una cosa che richiede magari un'ora, perché è una cosa di approfondimento, e questi erano eventi. C'era anche un'altra ragione, sì. Devo dire che addirittura io ho vietato lo streaming, che oggi forse non vieterei, ma all'epoca l'ho vietato, sì. Perché e quindi anche il video di conseguenza era vietato per questo tipo di restituzione. Il video integrale della conferenza, parliamo, sì, sì. Perché tutte le cose, l'atelier nascono dopo un video di 3 minuti che... però diciamo che noi dovevamo portare le persone al museo, cioè il museo doveva essere abitato, doveva essere l'occasione perché diversi pubblici magari attratti da cose diverse del palinsesto si trovassero lì casualmente insieme, si parlassero, cioè era una cosa che richiedeva la presenza dei corpi nel museo. Quindi diciamo lo streaming, uno dice vabbè, mi sento sto contenuto dal salotto di casa e non ci vado. No, non te lo senti dal salotto di casa, devi venire al museo, certo, fare la strada, partecipare, e poi magari non stai solo a sentire il tuo fai la domanda, non stai solo ad ascoltare, ma poi magari intercetti il video del giorno, perché ogni giorno il museo aveva un'opera di videoarte nella hall, incroci un altro, ti fai un giro negli atelier perché sei arrivato mezz'ora prima, ti prendi un caffè, parli con l'amico artista o l'amico anterior, fai una domanda, dici ma lei non è qui, capito, Cacciari? Sì, sono Cacciari, cioè voglio dire, questo serviva anche un po' forzare, no? Diciamo. Beh, e questo fa scopa un po' con l'idea di come era, doveva essere all'inizio l'auditorium di Piano, perché per tutta l'amministrazione Fuortes il fatto che la biglietteria fosse ancora nello spazio pubblico e tutti i foyer fossero luoghi dove portavi anche, come è successo nel mio caso, la figlia piccola a imparare a camminare perché fuori magari piove o ci sono le macchine. Cioè l'idea che se tu crei uno spazio veramente pubblico, relazionale, le persone non vanno lì sapendo esattamente quello che gli succederà. Però nel caso dell'auditorium, come in tutti gli altri casi, diciamo, a parte i bambini che corrono nel giardino, sì, al Maxi, compreso il mio, no, oppure anche nella cavea, sì, cioè, voglio dire, poi che tipo di spazi relazionali sono? Cioè, cioè lì è l'architettura e il fatto che non paghi rispetto a pagare, che diciamo diventa spazio pubblico, però uno spazio pubblico che equivale a una piazza qualunque. Non c'è l'elemento del dispositivo, non c'è niente di attivo, quindi diciamo che alla fine. Però il problema è che poi, quando la biglietteria è stata invece spostata in un luogo prima del muro, della barriera, dell'auditorium, ma a quel punto la cosa più affascinante che è successa è che sono crollate le vendite dei biglietti, cioè anche proprio dal punto di vista strettamente economico si è rivelato un boomerang. Cioè quando, dopo il Covid, quindi quando l'amministrazione Fuortes è finita e sono arrivati i nuovi, l'auditorium ha rinnegato anche l'idea originaria di creare uno spazio a disposizione della città, che era molto meno ambiziosa, cioè la tua è una... Io l'ho chiamato un insulto ischemico al sistema dell'arte, cioè una forma proprio di una frattura, l'ho chiamata. Ma non è un insulto all'arte, è un insulto, un insulto ischemico, nel senso che deve causare una reazione fisica. No, ho capito, però in realtà era una cosa che ma non tanto all'arte o al sistema dell'arte nemmeno, cioè secondo me a tutti gli spazi pubblici della cultura, che pubblici non sono, no, che in parte non sono pubblici perché poi si devono pagare, perché sempre poi c'è pubblico, e quando entro come nella chiesa, come nella carta del Nolli, spazio pubblico all'interno della chiesa, la chiesa nell'interno non è pubblica dal punto di vista della proprietà, però è pubblico l'accesso, quindi di fatto diventa un'estensione della piazza, io posso entrare e uscire, se piove mi riparo. Non è gratis, per te non è. No, ma per me intanto la gratuità è fondamentale, il più possibile, non sempre tutto si... E comunque, anche se hai delle cose, appunto, non, cioè, a pagamento, perché hanno dei costi che vanno su, però, come dire, se fai un palinsesto come il Magrasilo che ti chiedeva di venire tutti i giorni, non puoi pensare di far pagare i biglietti tutti i giorni, no? Quello sarebbe stato un impedimento al funzionamento della macchina, diciamo, no? Quindi diciamo la gratuità era obbligatoria. Se poi fai due mostre l'anno, puoi pure far pagare il biglietto. Io sono sempre per una gratuità, visto che paghiamo le tasse, paghiamo tutto, cioè, voglio dire, alla fine qualcosa ci devono pure ridare, no? Però voglio dire, non sono due biglietti l'anno che mi creano, diciamo, il problema. Smithsonian fa due mostre l'anno, no, però è gratuito. Però l'insegnamento del Mag, quando io ho lasciato, diciamo, anticipatamente il Magrasilo, ho detto va bene, ma chiediamo asilo a tutte le istituzioni, perché per, non dico di abbracciare quella visione, però perché per un'ora, due ore al giorno non diventano asilo. No, io ho detto agli amici della Casa dell'Architettura, avete uno spazio bellissimo, una sala basta spingere il microfono, funziona lo schermo pure. Cioè, perché non dalle 18 alle 19 di ogni giorno voi non rendete questo spazio uno spazio aperto? I programmi dell'accesso. Sì, cioè, nel senso, quanti sono gli iscritti all'ordine degli architetti di Roma? 18.000. Bene, allora apriamo un calendario dove i 18.000 possono mettere la X su un orario qualunque e mandare 5 righe di sinossi con oggi vi raccontiamo noi che giovani che facciamo le villette a schiera. Ma ci viene nessuno, però non costa niente. Poi ci verrà Fux e se sarà il pienone, benissimo, capito? Cioè, come dire, uno spazio di autogestione dove... Ma loro cosa ti hanno risposto? Ah no, ma non è quello, perché tutti questi spazi funzionano soprattutto per essere governati e la lotta è per governarli. Cioè, io prima di fare entrare una cosa, a me devi... Se si innesca una negoziazione, no, ma sono luoghi di potere dove l'esercizio del potere è connaturato al fatto che tu sei direttore, sei del CTS, sei del comitato, cioè, come dire, non puoi accedere e fare cose, capito? Non hai diritto di parola, ci vuole qualcuno che dica vediamo questo livello qual è, ma mentre io invece dico è interessantissimo vedere anche il non livello, cioè in una programmazione libera dove ciascuno ci mette la faccia, perché se io faccio le villette così col tetto così come il bambino di 3 anni, poi qualcuno mi dirà scusi ma che è architettura questa, ma vada, no, cioè vedete, si crea un dibattito, no, non c'è, come dire, una situazione dove già tu entri come nella chiesa inginocchiandoti di fronte all'archistar che è stato selezionato per l'Alexio, cioè voglio dire, a quel punto sì. Allora, visto che siamo al dibattito e sono le 12.30, se sei d'accordo, io aprirei anche a qualche vostra domanda, riflessione, perché cioè, già io e Giorgio su alcune cose non siamo d'accordo e si è visto, ed è secondo me questo che rafforza la nostra amicizia in realtà, perché se siamo sempre tutti d'accordo io non ho neanche bisogno di parlare con Giorgio. Se non siete d'accordo voi o avete domande da fare, è il momento di dirlo. Alzati così registriamo anche la tua domanda. No, se no andiamo noi in corso e vuoi stare seduto, te lo portiamo. No, bisogna che si sgranchiscano un po' le gambe, specialmente le persone della mia età. Dobbiamo fare qua. Nel senso, come hai pensato di creare lo spazio pubblico dove la gente veniva senza sapere che c'era? No? Questo perché io vengo dall'occupazione del Teatro Valle, dove a un certo punto c'era proprio questa cosa bellissima, la gente arrivava senza sapere che c'era, quello che c'era c'era, cioè perché gli piaceva proprio lo spazio, però quello era dopo un anno di occupazione, capito, si era creata con una comunità, una cosa del genere. Invece crearlo dal nulla, con un museo, che di solito è una cosa agile, come tu dici, sacrale, così, volevo capire Che dispositivi, cioè posso immaginarlo, però voglio sentirlo da te, che dispositivi avevi usato per crearlo dal nulla, no? Senza, perché un'occupazione è una cosa che arriva la gente, poi ci stanno le assemblee, poi se ne parla, poi va di moda, poi non va di moda, poi ti attacco, poi ti attacco, la gente passa, c'è l'amico, c'è una che ti piace, c'è tutta una cosa del genere che si crea, ma dal nulla. Questo era. Sì, intanto ti ringrazio. Non è proprio da nulla, perché io venivo dalla storia del mamma. Che era una... No, quindi diciamo che quando sono stato soltanto citato come un possibile nome uscito dal cappello dell'amministrazione per la direzione del Macro, è uscita una battaglia su tutti i giornali che è durata un anno, perché io per un anno non ho potuto dire niente perché non ero ufficialmente incaricato e quindi mi hanno detto non devi rispondere a nessuno, devi parlare a nessuno, non sei autorizzato a dire una parola. Quindi io mi sono beccato, cioè, tant'è vero che il Macro ha aperto con la pubblicazione di un libro che anche quello è stato molto criticato e contestato, che si chiamava Macro Asilo Pro e Contro, che erano 600 pagine di rassegna stampa fitta diciamo, dove tutti i pro e i contro prima dell'apertura del museo, quindi praticamente senza sapere niente di come il museo avrebbe lavorato, con che nome, con che cosa, con che proposte, diciamo, era uscito già di tutto e di più. Io giravo con le magliette direttore Squatter, che erano gli appellativi con cui le varie testate mi chiamavano, diciamo. No, no, era il Tribune, erano, ma anche Repubblica, direttore Squatter di Repubblica, Art Tribune era direttore centro sociale. Io poi i centri sociali non l'ho mai frequentati nella mia vita, quindi proprio, diciamo, proprio non, cioè, pescavano, ma c'era stato questo durissimo attacco, diciamo, perché sul macro c'erano interessi, diciamo, del sistema romano, che è un piccolo sistema, non conta niente, però su Roma c'ha la sua forza. Io ti dico che alla conferenza stampa di presentazione, dove io finalmente ho detto cinque parole di quello che avrei fatto, si è alzata una signora di una fondazione romana d'arte dicendo: noi abbiamo questo dossier per le proposte dei direttori del macro, che non ho capito perché l'amministrazione non ci ha chiesto. Io gli ho detto: ma scusate, per quale motivo ti dovevano chiedere, cioè dovevi dare tu il nome del direttore, cioè a quale titolo? Cioè, questi avevano questa arroganza di dire: capito, ci siamo noi. Che, poi anche che, l'assessore grillino Luca Bergamo è bellissimo, perché appunto dicevamo, sì, tutto tranne che Grillino. Vabbè, però era il vice della Raggi, quindi sì, diciamo che in quel periodo gli toccava anche essere appellato così. No, però per dirti, quindi si è creato intanto questa cosa negativa, ci ho molto sofferto, è stato molto duro anche combatterla, però ha creato anche curiosità, cioè come tutte le cose, tant'è vero che dopo 2 anni che io usavo le magliette hanno smesso di insultarmi, perché hanno capito che alla fine lavoravano per me, era il mio ufficio stampa, erano gli insulti di questi scemi, capito? Cioè che ogni volta le finisce, capito? E quindi loro pubblicavano cose, sì, che voglio dire, senza... A un certo punto è diventata una questione di appartenenza, perché... tutto ciò che era legato al macroasilo aveva come una sorta di fatua, no, del sistema dell'arte, per cui bastava dire Bergamo, De Finis, ma anche Pietro Iusti a un certo punto, all'inizio, per un certo periodo erano identificati con questa sorta di l'ora del dilettante, ok? Però quello che è successo è che poi sono arrivati anche artisti, filosofi, intellettuali che facevano parte in larga misura, anche se avevano probabilmente una maggiore apertura. No, quando abbiamo da pistoletto, no? Abbiamo aperto con l'incontro con Michelangelo, insomma, cioè, non è quello, non era la questione di dilettante, era proprio l'essere a controsistema secondo il sistema, cioè, capito, il sistema percepiva me come un intruso e anche come uno che ideologicamente era contro di loro, mentre io li avrei accolti e li ho accolti, quelli che sono arrivati, tutti come gli altri, cioè dentro il macro asilo tutti avevano diritto di parola, meno i violenti, insomma, diciamo, i nazisti no, però tutti gli altri avevano diritto di parola e potevano anche venire e dire: il macro asilo è un obbrobrio, è pensato male, l'arte qui non c'è, cioè era un dispositivo che viveva di questo tipo di sì, di dibattito, quindi tutte le gallerie, tutti quelli che no, come dire, si sono tanto sforzati di scrivere cose, cioè erano invitati a venire, parlare, dire, portarsi, cioè, quindi diciamo, poi questa cosa si è anche un po' capita, no? Però per me l'importante era che ci fosse uno spazio agonistico, diciamo, dove nessuno, non c'era mai la bandiera del museo che diceva: quello che dice Antonio è vero, lo dice Antonio, che però è museo in questa ora. Dopodiché Antonio si toglie, tu hai recepito delle cose interessanti e te le dici: bravo Antonio, lei ha detto boh e se ne va col boh, e quell'altra dice: per carità. Cioè, e così funzionava, no? Cioè, nel senso, cioè, tu sei museo perché hai diritto di parola, c'è un minimo di curriculum per prendere la parola. Dopodiché io non sposo niente, cioè il museo si muoveva a un livello metalinguistico, cioè metteva le virgolette, cioè lui è Pavolini è museo tra virgolette, sì, sì. E poi glielo tolgo, il museo diventa male. È un limite invece dei musei tradizionali, che non puoi permettere a quello che succede dentro di non ricadere sull'immagine del curatore. Tu c'eri quando all'incontro con Cristiana Perrelli, sì, da Orazio Carpenzano. Cristiana, presentando il suo magro, ha detto 3-4 volte, alla quinta alzato il ditino, ha detto: il museo di De Finis era un museo non autoriale, mentre io e Lopinto facciamo dei musei autoriali. Io la prima ho mandato giù, la seconda pure, la terza pure, poi ho detto: scusa Cristiano, tu fai un museo curatoriale, nel senso che scegli quello che per te è bello, giusto, interessante. Io faccio un museo autoriale dove cambio le regole del gioco e dico che non sono più io a scegliere, né te, ma ognuno dentro ha capito. Cioè, voglio dire, quindi è scorretta questa cosa. Cioè, non è che fare un passo indietro vuol dire non essere capaci di scegliere, vuol dire scegliere di dare la parola a tutti, che è un po' diverso. Non è... Cioè, io poi a casa mia metto quello che piace a me, ma il museo non è casa mia, cioè non vado a gusto mio, posso ospitare. Infatti le cose che non mi piacevano dentro il magrasilo erano tantissime, e la critica più sciocca che mi poteva essere rivolta, e anche da persone intelligenti, era: ho visto delle cose bellissime, però pure alcune così così. Ma io dico: ma sono fondamentali quelle cose, perché a me forse me ne piacevano meno che a te, soltanto che non conta quello che piace a me, conta il fatto che dentro quello spazio libero ciascun paradigma potesse mostrarsi con lo spazio e il tempo dovuti, che poi noi organizzavamo anche in maniera molto, come dire, forse anche tutt'altro che ospitale, perché poi tu c'avevi un'ora, tu mezz'ora, poi via, cioè, e anche quelle erano scelte che facevamo in base a una specie di valutazione del contributo. Quindi non è che non c'era la scelta stava nel darti un'ora o darti un mese, insomma, no? Quindi c'erano anche delle scelte, ed erano anche delle scelte che però avvenivano rispetto a un'offerta che arrivava, perché io non avevo le economie per alzare il telefono e chiamare l'Abramovic, cioè l'ho fatto, e l'Abramovic mi ha mandato una mail: caro Giorgio, sono 30.000 per una lezione. Io 30.000 non ce l'avevo. Più o meno come quando hai invitato Sismic alle conversazioni. No, però anche questo fa la differenza. È andata, no? Cioè, io organizzavo, diciamo, gli spazi, i tempi, in base alle regole del gioco delle stanze, ma anche in base a quello che arrivava. Per rispondere solo a lui, diciamo, noi facevamo però... c'avevamo anche sui social, eravamo una macchina da guerra, sì, però per cercare pubblico, cioè no, ma non per comunicare quello che avveniva, che poi è vero che a un certo punto la gente veniva senza più vedere né il programma cartaceo né cosa c'è oggi, perché poi il bello era proprio perdersi nelle stanze, cioè, come quando vai a prendere la metro, però, non è che guardi l'orario, sì, no? Però anche perché c'era una certa complessità, sì, sì, diciamo, sì, nel capire dove, come, quando, perché erano programmi fitti di roba dove, insomma, ti perdevi un po', faceva parte del gioco anche, e molti si arrabbiavano che c'erano le cose in simultanea e dovevano scegliere se andare lì o andare là. Dico, la vita è così, no, ma non solo la vita, cioè, per questo quindi somigliava a internet, perché anche su internet è sempre tutto in concorrenza, e ogni cosa che tu pubblichi se la deve vedere con tutto il resto che sta su internet, che è stata la causa della grande crisi e protesta del mondo editoriale. Ma i primi bar camp che erano organizzati come internet nello spazio pubblico, erano tutti in contemporanea. I talk del bar camp erano tutti in concorrenza tra di loro. Ma questo anche per un dato molto banale, cioè se io voglio dare la parola, cioè io ho il paradiso dantesco perché sono sempre a numero chiuso, cioè io ho un mese fatto di 10 ore al giorno con un giorno di chiusura e x stanze, si moltiplica il numero delle stanze per il numero delle ore, e quelli sono i posti, diciamo, dell'hotel magro asilo, ok? Allora il mio sforzo è di riempirli tutti, non per una bulimia, ma anche per dire: se 3 ore le lascio vuote, ho perso 3 voci, cioè non ho dato, non ho fatto salire 3 persone a dire cosa pensano del mondo, quindi non ho lavorato bene, ho sprecato 3 ore di uno spazio che comunque ha un numero di ore limitato, diciamo, perché è a tempo, no? Quindi lo sforzo era quello di macinare cose. Devo dire che, insomma, noi comunicavamo, c'era la povera Sofia che quando si è presentata come social media manager e poi, insomma, è cresciuta nei ruoli, diciamo, della comunicazione, ma mi voleva spiegare che più di 5 post al giorno non è bene farli perché l'algoritmo poi contesta. Io gli ho detto: ma noi abbiamo 30 eventi al giorno, quindi tu ne devi fare 30 e poi devi postare le foto e i video del giorno prima e la comunicazione del giorno dopo. Lei mi ha guardato così, come a dire, è dimagrita di 5 kg. No, ma mi ha guardato come, non è solo la mole di lavoro. Lei mi ha detto: tu vuoi affossare la pagina, cioè vuoi che ci sia zero pubblico a seguire la pagina. Invece l'algoritmo l'abbiamo proprio sdraiato, perché funzionava che i nostri 30 post erano rilanciati da tutti quelli che dentro ogni post figuravano, e a loro volta quelli ci taggavano postando le loro cose, cioè, quindi l'algoritmo era completamente incapace di fermare il magrasilio. Questa è stata anche una cosa dal punto di vista tuo, insomma, anche, cioè, che fa capire che non è, cioè, è vero se tu ne fai 7 di post, ma se ne fai 700, cioè, l'algoritmo viene sommerso. Beh, allora, la prova di questa cosa, cioè, che dice Giorgio, ce la insegnano anche la copertura mediatica di Gaza, cioè anche se i pochi video reali di quello che è successo a Gaza ci sono arrivati da piattaforme colluse con Israele, private, che obbediscono alle logiche dell'algoritmo, eccetera, e soprattutto su queste piattaforme c'erano anche molte informazioni false, comprese quelle dei Propal, perché anche Propal ogni tanto pubblicavano cose false. Ma quando un video viene comunque ricondiviso da milioni di persone e i fact checker stabiliscono che è vero, anche se viene pubblicato su una piattaforma tossica, arriva a milioni di persone e rompe un racconto dominante, che era quello dei media, sì, sulla Palestina, dove fino al giorno prima i palestinesi erano un numero. Sì, sì, no, ma qua, non, diciamo, era, cioè, mentre non era stata, tanto bucare, diciamo, cioè, la barriera, non c'è, la barriera è proprio quella ordinaria, vale per ciascuno di noi quando postiamo le cose sul nostro telefono, diciamo, no? Cioè, c'è un algoritmo che ti premia se posti in un certo modo, adesso con la lunghezza dei testi, un tempo senza testi, il link nel primo momento, cioè cambiano le regole, e ovviamente chi è esperto di queste cose ti dice: adeguati alle regole. Ma io non mi potevo adeguare, perché le necessità del progetto erano che, certo, che ciascuno doveva avere il suo post prima, se, dopo. Se il progetto obbedisce alle regole di una piattaforma privata sul web, allora siamo a voglia di dire curatore. Prego. Chiara. Ma volevo regolare? Sì. La giornalista viene con gli appunti. Sì, no, perché in realtà sono tante le cose che volevo chiedere. Purtroppo l'ora sta finendo, quindi. Allora, la prima domanda è relativa alla sacralità del museo, perché mi è capitato, io colpevolmente non sono ancora venuta al Mamma, però mi è capitato di visitare il Miralanza, l'ex Miralanza. Mi chiedo quale, vabbè, quello non era forse gestito come un museo, ma l'idea era, c'era una comunità, volevo sapere quali erano le differenze, perché quello è finito, che adesso è stato preso da Roma 3, certo. E cioè tutte quelle opere che ho visto dentro, opere, diciamo, sì, opere, murales, credo che, non so, si vanno perse o non so, appunto volevo chiedere cos'era successo tra queste cose. Poi, volevo capire, proprio perché il corso è sulla comunicazione, al di là dell'algoritmo domato, di solito, per quello no, siamo andati per fatti nostri, no, di solito si intasa l'algoritmo quando gli fai così, però vabbè, è andata bene. E volevo sapere invece di questi materiali, cioè relativi al MAM e poi a quello che è stato Macrosilo, cosa se ne può fare, come mantenerli vivi, se c'è qualcosa che accade in questo senso. E l'ultima cosa, quindi 3 domande, e l'ultima cosa è, dopo l'esperienza del, diciamo, MAM, che è ancora attiva, dopo Macroasilo, qual è secondo te un po' il futuro, dove andare a cercare questa, come hai chiamato tu prima, questa macchina maieutica? Ma anche il cortocircuito, anche il cortocircuito tra alto e basso, basso finito. Beh, così puoi anche parlare del Museo delle Periferie per chiudere. Sì, sì. Diciamo, sulla comunicazione, non lo so, i materiali, diciamo, noi, io lavoro sempre documentando e lasciando traccia di quello che si fa, perché si fa grande sforzo per fare quello che facciamo innanzitutto, ed è importante. Per esempio il Valle doveva cacciare fuori 10 libri, è dovuto lasciare una traccia più importante, secondo me, di tutte le iniziative che faceva. Abbiamo iniziato nello stesso anno, diciamo, il Valle e il Mammo, insomma, quindi diciamo ci seguivamo, però diciamo io al Mammo ho fatto un catalogo di 1000 pagine, cioè ho fatto delle cose che che quando andavo a portare da una parte le poggiavo sul tavolo, si sentiva la gamba del tavolino che scricchiolava, perché serve anche come strumento, cioè serve per la storia, ma è una storia, diciamo, in corso d'opera, non è che quella roba non può essere rianalizzata, rielaborata, anzi sono sempre cose fatte in corsa che servono per fare il passo successivo, sono proprio anche armi, sono strumenti, cioè, diciamo, arrivi con un catalogo di 1000 pagine e serve per fermare la ruspa in un altro metodo, diciamo, no? Quindi tu lo fai per dire grazie agli artisti, lo fai con i fotografi veri e non con quelli amatoriali, perché c'è un rigore per fare le cose, lo fai con un editore che capisce che se in un catalogo ci sono 1000 autori venderà 1000 copie, probabilmente non c'ha bisogno di chiederci soldi, cioè lo fai con una serie di strategie, diciamo, minime di ragionamento, no? Quindi, però sono il macro asilo è un progetto chiuso, quindi quello che sta lì faticosamente lo abbiamo congelato, perché il Palexpo voleva chiuderlo con il tasto il giorno dopo dicendo è finito il progetto, liberiamo gli hard disk. Ha detto scusate, non si buttano, cioè, io vorrei conoscere ore, no, ma l'hanno detto, è la prassi, finisce un progetto, buttano tutto. Io ho fatto una fatica immensa, è stato congelato, è un sito dove non si può aggiungere, togliere niente, però almeno sta lì, insomma, no? Quindi questo per rispondere, diciamo, alla questione. Mira Lanza la taglio molto velocemente, diciamo, quando io... Sì, la Miralanza è un ex stabilimento come la Fiorucci, solo che sta qui a Ostiense, accanto al Teatro India, diciamo, ed era abbandonato con una, diciamo, dentro una famiglia rom poche, uno dei tanti luoghi dove le persone trovano, diciamo, un mezzo tetto, se non un tetto. Diciamo che quando io ho visto annunciare da Gianluca Marziani e 999 Gallery la nascita di questo museo abitato, ho detto stanno, questa è una fiction, cioè stanno prendendo in giro, ma veramente l'ho presa, dico, ma la devo guardare, ma che stanno prendendo in giro il Mamma, cioè, dico, cioè, invece era un tentativo di fare qualcosa come il MAM, che però aveva come sempre altri obiettivi, insomma, perché Stefano Antonelli era interessato ad ottenere quell'area, diciamo, per fare le sue cose, quindi ha portato un artista a dipingere dentro uno spazio abbandonato, cioè non è una grande... diciamo che entrare al MAM vuol dire entrare dentro l'assemblea di un movimento organizzato, convincere l'assemblea, cioè, non è come entrare in uno spazio. Ma quelle opere adesso verranno... Ma quelle opere faranno la fine di tutte le opere di street art più o meno lasciate in giro, anche quelle volute fortemente, pagate, cioè dopo 10 anni non ci sono più, o dopo 15, quindi non è dal mio punto di vista una tragedia. Diciamo, quello era un finto museo abitato, che non era museo abitato, perché il museo era l'intervento spinto da un curatore. Interessante, perché succedono anche, è un altro aspetto di sono quelle cose, siccome andava di moda il MAM, hanno fatto un'operazione alla MAM. Ti dico che qui a 10 metri a Tormarancia lo stesso curatore ha fatto Big City Life, no? Che sono però Big City Life a un certo punto è stato chiamato, dopo qualche anno, museo condominiale di Tormanaccia. Ora già queste parole entrano in gioco quando c'è una riflessione e anche un certo successo, diciamo, di alcune operazioni che dicono che arte abitare, cioè noi ci abbiamo lavorato tanto, a un certo punto quello diventa museo condominiale. Ma tanto era fasulla questa definizione all'epoca che gli abitanti hanno allontanato il curatore manifestando con i lenzuoli con le scritte "Welcome to casa nostra", e ancora adesso si combattono dove lui dice che quello è il suo museo, mentre gli attuali abitanti e curatori di quello che oggi si può chiamare a pieno titolo museo condominiale, perché è fatto dai condomini, hanno ottenuto adesso 600.000 euro da Fondazione Roma per proseguire il progetto. Non li ha ottenuti Antonelli, quindi diciamo che una cosa è usare in maniera fasulla certe cose di moda, una cosa è fare un progetto relazionale. Allora ben vengano altri 100 musei abitati, io non è che voglio il primato essere, però il museo abitato vuol dire che tu ti fai tutte le assemblee tutte le settimane, che tu stai lì, che tu fai la relazione, che quando l'abitante dice sto muro fa schifo ci lavori, ci parce, quell'altro, cioè quando un'opera si rompe tu vai lì, spieghi cioè fai cioè io sono 16 anni che sto al Metropolis, venerdì prossimo mi tocca il 17° compleanno e la cena, lunedì vado ad accompagnare un gruppo che deve fare delle riprese, cioè nonostante che insomma potevo pure starmene a casa, continuo ad andare tutti i giorni. Quindi quello vuol dire fare un quello di Antonelli, mi dispiace, non è un progetto relazionale, insomma, diciamo. Antonelli fa progetti commissionati di muri calati all'alto, punto, che voglio dire non c'è niente di male, ma facesse quello se, no, se mantiene poi, perché io mi sono trovato anche quando è nato il Museo delle Periferie a ricevere la richiesta di completare il lavoro lasciato a metà da Antonelli, che è scappato con i soldi di tutti e 6 muri e 3 non li ha mai realizzati a Tor Bella Monaca, e quindi diciamo con la polizia che entrava a perquisire l'ufficio di Bergamo per vedere se era complice in questa truffa, quindi diciamo che cioè, diciamo, lavoriamo in maniera differente, mettiamola così. Invece ho citato il Museo delle Periferie perché io poi progetti, diciamo, ho questa formula così scherzosamente, dico morto un museo se ne fa un altro, cioè cerco ovviamente di portare avanti il più possibile gli impegni presi, però quando poi un museo si chiude, diciamo in questo caso è nato dentro il magazzino, è nato il Museo delle Periferie, che è un progetto che ci ha richiesto il Municipio Sesto all'epoca quando noi avevamo diciamo attivo il magro asilo. L'assessore alla cultura del Sesto aveva dei pali di cemento armato che sbucavano a via dell'archeologia dal terreno, ha detto vorremmo costringere il proprietario delle palazzine che deve, ci deve ancora un'opera a scomputo a fare qualcosa per la comunità, che ci posso fare lì. Dopo un'ora che parlavamo io gli ho proposto il Museo delle Periferie. Questo progetto, che all'epoca era solo un nome, sono quei nomi anche scomodi che io utilizzo per fare di una debolezza un punto di forza, diciamo, Museo delle Periferie, come dire, già accende subito il dibattito, ma le periferie no, perché non chiamiamole quartieri? Sono quartieri di periferia, e ricominciamo a litigare, quindi sono interessanti perché funzionano subito per farti entrare, diciamo, non ti annoi mai, entri subito nella discussione. Questo progetto noi abbiamo avuto vari incontri pubblici aperti alla città per discutere tutti insieme cosa poteva essere un museo delle periferie al Macro. Poi morto il Macro, che muore con 2 anni di anticipo, perché a un certo punto l'assessore convoca un bando, lancia un bando pubblico, ma la realtà è che il più 2 a me lo hanno tolto, non per le polemiche interne o non solo, per le questioni legate al sistema, perché avevo dalla mia 330.000 visitatori che il Macro non avrà più nella sua storia, ma perché andava sgomberato il Mamma, cioè a un certo punto il Mamma a febbraio 2020 era la data diciamo che il prefetto aveva scelto per sgomberare Metropolis, e siccome tutti sapevano che io non mi sarei lasciato sgomberare Metropolis, che era, diciamo, nell'accordo, io creavo il Magro Asilo, che era la seconda nave, diciamo, che navigava insieme a quella del Metropolis, cioè era, come dire, c'era, era il mio biglietto da visita per fare quello che stavo facendo lì, non è che io ce ne avevo altri, quindi non mi puoi chiamare dicendo quanto mi piace il mamma, ti do il Magro e poi mi sgomberi, diciamo. Quindi per una questione di coerenza, diciamo, l'amministrazione ha capito che si sarebbe trovata una patata bollente, diciamo, sgomberando il mamma, che è vero, perché io non li ho mai tranquillizzati in quel senso, non gli ho mai detto non vi preoccupate, si fa quel che si deve, lasciatemi proseguire. Io gli ho detto qua dentro faremo battaglia, ci metto a dormire 100 rom, cioè, voglio dire, quindi insomma, diciamo che anche io ti avrei cacciato, no, diciamo. Ma ecco, ma mi avrebbe cacciato anche lui, perché è ovvio che, però era inevitabile, diciamo. Invece miracolosamente a un certo punto, sempre Bergamo annuncia in una conferenza stampa a cui non sono neanche invitato, per l'estate romana, annuncia che nasce il Museo delle Periferie a Tor Bella Monaca. Questo annuncio viene comunicato da Art Tribune, che sempre mi è molto vicina e amica, Roma Cericasca, nominato nuovamente direttore De Finis e le solite cose, e dopodiché non si capisce questa cosa, non si capisce perché viene annunciata, perché da Bergamo, con cui avevo discusso anche fortemente, con che risorse, con che, cioè, è una cosa che non si è mai capita, se voleva essere una specie di micro risarcimento per le cattiverie inflitte, oppure se volevano, temevano che qualcuno mi acchiappasse in qualche campagna elettorale, mi hanno detto occupiamolo con qualcosa, tanto se tu gli dai una cosa in periferia quello si incaponisce, lo teniamo occupato lì e noi ce lo leviamo di torno, non si capisce. Però mi hanno dato sti quattro piloni di cemento che ricordano i 400.000 euro i quattro piloni, no, ma è, vedi, se lo cerchi in giro è una cosa abbastanza ridicola. Dopodiché quei piloni non hanno sortito nessuna cosa, cioè la precedente giunta non è riuscita a incastrare il privato a fare quell'operazione, quindi io continuavo a dirigere sotto leggi dei Palaexpo con un budget che era un decimo di quello del, cioè un museo che non c'è, capite, che forse non ci sarebbe mai stato, fino a che diciamo l'esigenza del PNRR romano ha spostato, ha teletrasportato da quella piazza alla corte nord del comparto R5 il progetto, che a questo punto è stato disegnato da Orazio Carpenzano di Sapienza, e quindi il museo si è trovato a essere la ciliegina sulla torta di un progetto di 130 milioni di euro di investimenti, e quindi, diciamo, è andato avanti. Ora stanno costruendo, quindi ci auguriamo che a fine anno questa sede dentro la corte nord, e quindi museo condominiale anche lui, insomma, abitatissimo, diciamo, verrà realizzato, e quindi spero in tempi brevi sarà anche aperto al pubblico. Nel frattempo in 5 anni abbiamo lavorato in maniera nomadica, abbiamo un festival annuale che si chiama Iber Festival, dove per un mese diciamo andiamo in giro a fare cose, sempre con budget molto relativi, però diciamo i temi del Museo delle Periferie sono, diciamo, insomma, abbastanza conosciuti. Oggi, quest'anno faremo dall'8 maggio al 31, anzi vi invito a partecipare, a seguire un po' queste nostre cose, dall'8 al 31 di maggio faremo anche una 3 giorni al Mamma, perché il Museo delle Periferie nella sua mission c'ha a valorizzare luoghi come il Mamma. Mi dispiace se sembra autoreferenziale, però è uno degli obiettivi del Museo delle Periferie, cercare cose come il Mamma nel mondo e raccontarle e metterle, no, a valore, diciamo. Cioè mi interessano quelle risposte che nascono nelle periferie, non necessariamente al basso, ma ancora di più mi interessano se hanno la capacità di essere attrattive rispetto ad altri territori, cioè non solo di soddisfare le esigenze di quel quartiere o di quel crocicchio o di quelle quattro case, che sono fondamentali queste cose, perché diciamo mancano, lo Stato non c'è, però diciamo rispondono a una logica molto locale. A me interessa scoprire quando quelle operazioni riescono a creare, come dire, bypass tra la città, cioè quando un progetto porta i Varioli a Torbella Monaca, mi interessa quello, diciamo, e anche quando insegna ai Varioli qualcosa. No, quindi, learning from Torbella Monaca. Quindi diciamo la direzione è non portare le briciole in periferia, ma far portare le lezioni della periferia, nel senso della parte vitale e innovativa della città, che è tale proprio perché c'ha il gioco un po' più lento, non solo perché, un po' perché o nuota o affoga, ma anche perché non è schiacciata dagli interessi che ci possono essere in centro. Quindi diciamo che se può, cioè il mamma se stava al centro durava un giorno, insomma, diciamo, è durato 17 anni perché era laggiù, diciamo, no? E quindi ci abbiamo avuto il tempo di sperimentare una cosa, diciamo, no? Ora, quindi musei non coloniali, non portiamo l'opera, sì, bellissima portare l'opera in periferia, però pure interessante portare cose della periferia, cioè in centro, insomma, non solo, perché questa amministrazione che prova a creare connessioni, no? Anche interessanti tra centro e periferia, però io ho visto in pochi giorni pubblicizzate due cose, no, che erano entrambe valide, però messe insieme facevano un po' sorridere a me, nel senso portiamo il pullman con l'opera in periferia. Vabbè. Non so quanti gli interessa l'opera, ma in periferia, però va bene, è una buona iniziativa, cioè la sposo come tutto il resto, diciamo. E l'altro pullman è la città dei 15 minuti. No, l'altro pullman portava gli anziani della periferia a vedere il Colosseo. Anche questa è una cosa degnissima. Però cosa sta dicendo? Cosa dicono questi due pullman? Che tutta la bellezza, il valore, la cultura sono del centro. E quindi o il centro, cioè, ti risolve il problema che stai lontano senza. Sì, ma capite, è come se però la cultura non c'è in periferia, no, non c'è niente interessante, tutto quello che è interessante sta al centro. E va bene così, però non è quello il messaggio, diciamo. Roma è una città che ha il centro, cioè che è più, come dire, no? Col centro più definito. A me fa tanto ridere quando dicono non c'è più il centro periferico, cioè Roma è a chilometro zero, è il Campidoglio dove sta il sindaco, a chilometro zero c'è il primo museo della storia della cultura occidentale che sono i Capitolini, il valore metro quadro massimo della città che decresce mano a mano che ti allontani dalle vie consolari che si misurano in base ai chilometri alla distanza da quel punto zero. Ora non mi dite che Roma non è una città con il centro e la periferia, perché mi viene da ridere, no? Cioè Roma è una città che è fondata su questa dicotomia e sul valore tutto orientato al centro, quindi diciamo c'è da cambiare, secondo me. E il museo delle periferie, come anche gli altri dispositivi museali che diciamo sperimento e ho sperimentato, sono dispositivi politici nel senso nobile, cioè nel senso che parlano della città, di giustizia sociale, di partecipazione. E torniamo a Chioto. Anche a Chioto, certo. Anche. Certo. Grazie Giorgio, come al solito generosissimo. Lui è un vulcano di idee, suggestioni e confronti sempre utilissimi. Anche gli assenti potranno ascoltare, anzi dovranno ascoltare queste due ore che pubblicherò su Archive naturalmente, e vi invito comunque a continuare a seguire le sue cose, a cominciare da Iperfestival a maggio. E niente, grazie Giorgio. Grazie a voi. Un dono, anche questa è un'economia del dono. Grazie. Davvero. Grazie mille. Buona pausa. È peccato che però non rimane.